Se uno clicca su troppi siti di quel tipo, poi il computer. Benvenuti, al decimo episodio della Maledizione di Catta, dove Arci studia la Guinness. Perché ricorda la ghisa. È vera, come la ghisa. E un buon post San Patrizio a tutti. Speciale San Patrizio, così. Speciale quasi di San Patrizio. Ma prego. Ho scolato la canna per le mani. E questo, però non puoi spoilerare così subito la puntata a tutti. Va bene. Ovviamente noi siamo Tycoons & Dragons, anche se a ranghi abbastanza ridotti. E ci potete ovviamente seguire comunque lo stesso sui nostri canali social di Tycoons & Dragons e RimGDR. Salutiamo i paccari, e volevo dire i nostri caduti, paghi che non sono più con noi, i fortunati Luca Lazzarini, Stefano Gamberoni, che torna nel suo ruolo più importante, e Edoardo Saladini. Mentre qua presenti con me da Bologna, Andrea Giacomovecchi, ci sono Giulio Bosi, Francesco Arcidiacono e il master Enrico Cattabriga. Ma per fortuna che sono venuto, perché sennò avresti giocato lo stesso in due. Eh sì, ormai siamo qua. L'ho detto ieri, però dico, se si è paccato ieri. Abbiamo comunque giocato, perché Salla l'ha detto mezz'ora fa. Sei stato bravo, Arci, perché sei arrivato presto. Che giocatore, che cuore, c'è la squadra. Quindi io direi quasi che non possiamo che iniziare con la di livello. Vuoi la sigla? Pure. Sono impreparato, però sì, certo. Ero impreparato alla sigla, effettivamente. Ma sì, possiamo assolutamente fare una sigla. Metti Windows Change degli Scorpio. Nella mentalità addirittura. Intanto potete iniziare l'assalto, l'auto. No, avevamo parlato con la vecchietta. Devi dare una cosa, vecchia MILF. Esatto, cosa vi aveva detto? Che ci deve dare una cosa. Ok, prima di quello che ci deve dare una cosa. Vabbè, lei, diciamo che è dalla nostra parte per il discorso del capo delle guardie. Secondo lei i vampiri non sono più in città? Secondo lei i vampiri non sono più in città? E vi ha chiesto se potete gentilmente sbarazzarvi di Zek. Esatto. Quindi dubito che questo solo colloquio. Ne diciamo, che ne dici di morire? Certo. A lei però ci ha chiesto di ammazzarlo? Sbarazzarvi di lui. E aggiunge: se lo farete, avrò una immensa ricompensa per voi. Un cimelio che è in possesso della mia famiglia da innumerevoli generazioni. E si narra possedere delle proprietà soprannaturali. Dimostra la catena che porta al collo, al quale pende. Bellissimo, è quello che apre la tomba della morte. Il simbolo sacro. Ma quello che apre la porta della cosa della mummia, per esempio. Il simbolo sacro del collo. Sì. Okay. Trafiggo la vecchia per il corvo da lei, però. Pezza, smettiti di non ravanare lì, cosa stai facendo? Che ti cambia? Guarda la compagnia, cioè. Non ti distrarre, masturbati dopo, stai ragionando. Si dice che in tempi antichi avesse un potere inimmaginabile. E tale, talmente infuso del potere sacro del signore del mattino, che potesse a volontà ricreare la luce del sole. Solo è pericoloso. Il sole sono milioni di grammi. infatti queste penso siano solo delle leggende, in quanto penso che o ha perso questo potere se lo aveva, o magari ha bisogno, non so, di un qualche cosa che lo riattivi, ma non ho idea di che cosa si possa fare. Stella morente. Però ha un grande valore per me e vorrei che, insomma, per suggellare la nostra alleanza, parola dell'idrogeno, portate dentro. Io posso fare un tiro di religione. Sì. E invece io di insight per capire se ci sta procurando o se invece è sincero. Un regalo dell'Happy Meal che ha trovato. 4. Ah, sono anch'io questo Happy Meal. Oh, brutto, 16 più 5, 21. C'è 5 in intuizione, sì, perché è quel che la sicurezza alta. Io sono 3 abilità. Anch'io. Sì, lei pensa che sia soltanto un antico cimel. Glielo sta cerca di vendervelo come se fosse la cosa più figa del mondo. Mi sta procurando. Diciamo che è una molto brava a presentare le cose. Io faccio un'investigation per vedere un oggetto di valore. Se ha segni particolari. Lei o l'oggetto? No, l'oggetto. Che tipo, che segni? Che cazzo ne so. Vabbè. Investigation, come dice quello. Sì, beh. Abbiamo ancora solo più due di profi, che fanno? 16. Noti che la gemma al centro è la gemma dell'infinito. Oh! È come se fosse è la realtà rossa. Dovrebbe essere più luminosa, diciamo, delle gemme simili che hai visto. È una patacca questa. No, non come dico. Ha comunque un grande valore affettivo, va bene. In che senso? Sui corsi. Cioè, su come usarlo? No, perché praticamente. Vabbè, adesso è una cosa. No, momento pubblicità. No, dilla. Ormai. No, siamo in ormai. Pubblicità. Stai detto direi. C'è una cosa professionale o una cosa di uno? No, è una mia curiosità. Dillo, pubblicità. Il mio post medio, sì. Foto a cazzo. Mettiamo che prende tipo. Facciamo finta 80 like, no? Sì. E con gli hashtag che metto, hashtag abbastanza internazionali di solito, quindi anche in lingua inglese eccetera, magari ci sono quei due stronzi nuovi follower a cazzo che arrivano. Sì. Ieri ho messo il post, quello del sito su Instagram, sì, quello proprio per promuovermi, in cui ho messo tutti hashtag italiani, tipo dietista, Bologna, delle cose, cioè non dietitian, food, healthy lifestyle, quelle cose lì, e ho avuto una marea di like, non di miei amici, quindi nel senso esterni, ma del tipo due volte. Intanto perché molti tuoi amici l'hanno likeato e cosa, e secondo perché però hai messo, tu non vedi, hai messo molti più hashtag del solito, scusa, no? Non vedi like dei tuoi amici, certo, cioè, sì, vedi. Però devi andare a vedere nella sezione di che ho messo i tuoi amici, non è come su Facebook, capito? Qualunque post puoi vedere chi l'ha. Sì, no, nel senso che non sì, ti compaiono, però non c'è sulla home a Giulio Bosi piace questo, cioè, evento, in realtà se uno scorre le storie. Ora, cioè scorre le storie, scorre lì, se la funzione cerca lì, ci sono post che tendenzialmente ti interessano, quindi anche post di tuoi amici potenzialmente, a cui i tuoi amici hanno messo mi piace. Beh, però mi ha sparato un sacco di like. Mi ho avuto una marea di like in più rispetto alla mia media e ho avuto una marea di follower ovviamente anche spagnoli, cioè che non c'entrano un cazzo con me, o con dei post, perché ho messo post italiani, anche c'è hashtag italiani. E quindi ho avuto tipo 30 follower a caso, volevo capire che cosa in quel post avesse eventualmente smosso rispetto agli altri post. Chiaramente il faccione. No, chiaramente vabbè, faccione. No, perché comunque c'è, nel senso, non ho messo niente di, non so, di, come dire, cioè mi aspettavo di avere i like dei miei amici e basta. Cioè i miei amici più fidati che dicono, ah, ci ho messo il sito, bravo, bravo, gli mettiamo il like, fine. No, sei circa al doppio più o meno, ma il doppio di quelli esterni, cioè non il doppio dei miei amici, capito? Cioè per finta su 170 70 sono gente che non ho mai visto prima, di cui non ho visto. Ci sono più, ma allora ci sono più hashtag, ma non è tanto quello, secondo me in generale è piazzato meglio, nel senso che comunque sono tutti hashtag più o meno correlati. Beh, ma è una cosa, quelli sulla pale di solito sono correlati. Sì, però è una cosa, diciamo, più, cioè, pubblicitaria, probabilmente, se magari ha hai attirato l'interesse anche di chi fa quel lavoro lì. Cioè, poi scusa, con questa foto la gente dice in grave. Aspetta, adesso non ancora. Altrimenti mi piace, no, magari, metto, commento. Senso, magari è tanta anche gente del settore che normalmente c'è. Vai a beccare. Beh, però scusami, anche con il post della pale, potevo, cioè, capito cosa sì, dico? Sì, però è anche molto più inflazionato se fai gli hashtag in inglese. Palestra. Sì, più o meno. Diciamo che in realtà sì, quasi tutti i like che hai. Ah no, però vabbè, sto guardando dei miei amici, bisognerebbe guardare dei tuoi. Eh no, visto, sono fai fine su 170, 70 sono nuovi. Per dire. Vabbè, era mia curiosità. No, semplicemente no, non. Perché non è che tipo. Boh, a caso. No, ci sta, ci sta. Sicuramente è ben piazzato, più c'è anche il sito, eccetera. Secondo sì, me perché comunque è. Chi magari è del settore cerca quelli lì, te lo mette per seguire, per avere sì, esatto. Bene, ma hai avuto anche dei nuovi, cioè, nuovi seguaci? Sì, tipo la trentina, beh, buono. Cioè, che sulla mia media in è tanto. Teoria, comunque, tu hai fatto sto posto per ottenere quello, quindi bene. Sì, però non mi aspettavo, cioè, mi chiedevo cos'era la differenza dagli altri. Di Fiona vi dice: se volete un sacco di like, uccidete Izek. Va bene, ci sta. C'è un post la sua testa. Esatto. No, ci sta anche il pubblicitario. Cioè, segnala che tu fai quella roba lì e magari uno dice: oh, seguiamolo. Quindi più contenuto che gli hashtag o altre cose. Sì, però è come hashtag è piazzato bene, effettivamente. Ok. Pausa finita. Bene, sono contenta di aver conosciuto delle persone così ragionevoli. Fa una dieta se vuole, lo dico. Lei è già abbastanza magra. Ah, ho già messo like. Fai ingrassante. E mi raccomando, massimo riserbo, perché quel pazzo. Salutiamo Alessandro Gimmi Muschi. Oh, quel pazzo? Cosa hai detto? Ha orecchio, ha orecchio ovunque. E quel pazzo. Non mi stupirei che vi avesse fatto pedinare dai suoi tirapiedi fin qui dentro. Beh. Quindi tutta sta cosa era che ci promette questo medaglione. Sì, però aspetta, il piano alla fine qual era? Non mi ricordo più. Mi aspettavo così. Uccidere la vecchia. No, non credo. Dubito che esiste un medaglione per ucciderla. Lei dice che dopo, si può dopo il colpo inferto alla comunità alla sera dell'attacco alla chiesa, il morale è sotto le suole della gente. La paura. E basterà un pretesto, una qualsiasi scintilla per far accendere il fuoco della rivolta. Mm-hmm. Vorrei evitare questo e cercare di condurre Vallachi a una transizione pacifica. Quindi con l'eliminazione dei non ha studiato la storia. Ah sì, è vero che lei la storia si ripete sempre strana. Due volte strana, sì, la prima come farsa, poi come tragedia, bisogna vedere quale strana. Sia ma ho più no, che i cambiamenti non avvengono senza spargimento di sangue, vero, ma cercherei di ridurre al più possibile. Più, no, vedi, più è alto meglio è. Ma che cosa suggerisce? In questo grafico dello spargimento di sangue sul il cambiamento. Puoi vedere. Il video sono migliore. Suggerisco che c'è quando tutta la qualità che ha perso lì nel iniziale è più bello, guarda. Quando arriverà il momento, il barone andrà nel panico e affiderà a Izek il compito della repressione. Se non avrà questa possibilità, allora è probabile che si arrenda e quindi eviti una quindi strada. Eliminare Izek è probabilmente la soluzione. Credo di sì, disse il paladino legale. Vero peccato doverlo fare. Un peccato, lo so, è probabilmente anche un bravo ragazzo, ma ha avuto una storia. Easy, sopravviveremo. Easy, questa. Ha avuto una storia molto triste e questo probabilmente avrebbe condizionato chiunque. Sì. E penso che la morte sia una benedizione per una povera. E vorrei il copyright, però, eh. No, sulla morte? No, sulla frase. Ah, okay. C'è il mic registrato. Quella povera bestia, che non la definirei neanche un umano, guardatelo. Con quel braccio che mi sembra venire essergli stato trapiantato da una bestia degli inferi. Adesso, proprio, signora, questo razzismo, signora Megera, mi dica, lei per caso sa qualcosa di questo suo braccio? La storia di Inzek mi è stata raccontata da, insomma, dei ragazzi che lo conoscevano quando era bambino. Che hanno fatto questi ragazzi? Adesso sono uomini e vivono a Vallacchi. Speravo che adesso sono morti. Qualcuno sì. Sono morti? Sbranati dai lupi. Ci sono molti lupi in queste terre, dovete stare attenti. E appunto Inzek perse un braccio durante un calcetto. E provocò anche la morte dei suoi genitori. Mi dissero che però, nonostante questo, lui, insomma, la vita va avanti e si mise d'impegno a lavorare per farsi, insomma, una vita. E un giorno, quando era sperduto nelle foreste, cadde, diciamo, venne colto di sorpresa dalle tenebre quando la sera arrivò. E come capita tutti la sera? Nei boschi la notte viene prima. E quindi si coricò in un nascondiglio per passare la notte. Si addormentò e disse, appunto, che si risvegliò con questo braccio. Che non so perché. Io non so cosa. Non so cosa. Io credo che. Quanti anni fa? Ti ricordi? Quando era ragazzo, penso sia stato ormai una ventina d'anni fa. Boris. Che lui è un braccio abnorme, se non sbaglio. È come se un pezzo una creatura demoniaca si fosse attaccata. Però e avesse attaccato questo braccio. Il calco da lì è cambiata. Il braccio demoniaco è uguale all'altro. No, è molto più grande, fa molto di più. E da lì è cambiata anche la sua personalità. Era molto burbero anche prima, per via. Appena avremo i pupazzetti, daremo il via alla vena comica. E ovviamente con questo nuovo segno addosso venne ancora di più ostracizzato e ovviamente di riflesso divenne un bruto, un violento. E forse non è necessario eliminarlo, basterà, diciamo, metterlo fuori gioco, farlo passare a miglior vita. Ha ragione. Mi fido di voi per l'esecuzione, la dinamica del non c'è problema del piano. Forse signora, sarà necessario ucciderlo. Mi affido a voi per il bassatro. I dettagli del bassatro. Signora, ovviamente noi non siamo una compagnia di assassini. No, comunque non nasciamo così. Però d'altronde, se lui dovesse attaccarci o dimostrarsi ostile e cercare di ucciderci, noi per difendersi. Guarda quella faccia ostile! Per difendersi. Ma parlando di cose serie, invece, quanti danni collaterali sono accettabili? No, è che non è accettabile, vuol dire che lei dice di... Vorrei che la città rimanesse integra. Vabbè, questo si può fare. Nessun abitante, ecco, della città subirà danni. Subirà danni. L'unico abitante che ha un po' sofferto è uno che è stato curato dal nostro buon. Una città può rimanere. Che gli integra. Ha fatto invecchia! Quale? È il caso. Il caso a volte è crudele. Bene. E poi ho cercato di soffocarlo con un sacchetto, però. Beh, meglio lo copro io. Va bene. Se c'è qualcosa che posso fare per voi, trattamento disumano del... fatemelo sapere. Beh, diciamo che sicuramente il signor Isaac non sarà solo. C'è il rischio, ovviamente, che nella discussione chiami qualche guardia. Se avesse per caso qualche pozione o qualcosa che eventualmente può esserci utile per uno scontro, sarebbe ben accetto. Fammi controllare. Io in realtà ancora ho il dolcetto stregato, smangiucchiato, dei genitori del bambino che ho trucidato. Cioè, ho trucidato i genitori, non i bambini. Il bambino non ha fatto niente di male. È vivo. Importante chi lo cioè, sa. Era vivo quando l'abbiamo affidato a Kojonovic, adesso chissà. L'importante è che io non le sappia queste cose, per il resto. Allora, che cosa occhio non vede qua non duole. Sì. Occhio non duole qua non vede. No, è tipo occhio non vede. Qua non duole. Roleplay che non si attiva. E tipo. Sono passivo. Va bene. Dobbiamo cercare di separare Isaac dalle altre guardie. E poi vedremo un po' come agire. Vabbè, se gira come sempre con le due guardiette è un conto. Secondo me potremmo provare a, diciamo, neutralizzare. Più che altro noi siamo in tre adesso. Sì. Così pare. Potremmo cercare di neutralizzarlo e poi allora, nasconderlo, non so, sotto la chiesa. In quanto tempo? Vivo. O entro quando? Cioè, sì, io da paladino dico di sì. Deve essere fatta se la lo cosa. Fai dare a zero non è morto. Cioè, no. Ci posso limite, sempre fare danni in un'età. Il limite sarà quando il delicato patto sociale che tiene in piedi questa comunità crollerà per via della sua fragilità. Quello... potrebbe essere tra un'ora se io esco e inizio ad urlare, che ne so. È vero. Ci sono le progenie! Morte a tutti! O a uccidere le persone. Che... vabbè, comunque. Aspetta, un'altra cosa. Qui è il villaggio del... dei Vistani. Di Vistani. E invece la vigna dov'è? Ma lungo la stessa direzione. Sì, ma un bel po' più. Vabbè, un po'. Vabbè, quindi uccidiamo prima Isaac. Che... ancora questa cosa è la vigna. No, dobbiamo portare comunque la bambina lì a casa sua. Sì, sono 4 giorni ormai con noi. Sì, ma lo faremo. Cioè, prima bisogna risolvere la situazione qui. Non siamo arrivati a dove l'abbiamo trovata in mare. In lago. No. E... l'ho salvata, la porterò dal suo padre. Poi ucciderò suo padre, ma questo è un altro discorso. Secondo me. Cioè, come possiamo separarlo dalle guardie? Ma vediamo prima, non è detto che sia con le guardie, cioè abbiamo riconnesso, una volta che vediamo. Bisogna isolarlo. Sì, Vezza, se lo becchiamo in bar nel bagno degli uomini di un bar, siamo a posto. Se lo becchiamo con 8 guardie, ci vabbè, possiamo. Scusate. Non devi andare a ritirare la bambolina per. Sì, a forma di. Sai? Cogliona. Sì. Eh. Ma non l'avevamo presa lui? No. No, però io devo vendere lui. E lui ogni settimana chiede uno tipo. Sì, non è che gliele vende, lui le pretende da giocare. Però non andrà a ritirarla con un esercito. No, mi sembra un'ottima idea. Diciamo al tizio di chiamarlo a prendere. No, ma arriverà. Cioè, lui ci arriverà, ci va appunto, cioè ci va con scadenza, no? Sì, beh, ok. La bambola è pronta, lui la passa a ritirare. Diciamo al tizio di chiamarlo con urgenza a ritirarla, perché il giorno dopo dovrà chiudere per un periodo. Tanto è super nostro amico perché Giulio gli ha comprato metà negozio. Ah, chi lo compra? Io e lui abbiamo dato tipo quello che lui non ha mai guadagnato in vita sua, mai guadagnato. E poi gli chiediamo di farci da parte e nel negozio lo incateniamo nell'oscurità. E voglio dire, però facciamo l'assalto. Va bene, signora Montalcini. Ci rivediamo, ci faremo vivi noi a lavoro finto. Ok, vi saluta e vi dà una pergamena di cuore ferite per il vostro lavoro. Vecchio stile questo. Segnata la tua. Io sono l'unico che non potrà mai leggerla. Noi non possiamo lanciare pure. Lui sì. Segnata la tua. Tu puoi farlo, Vez, eh? Sì. Io in forma animale non posso leggere il pergamino. Io non posso leggerla di base. Comunque, Katta, io il mio equipaggiamento quando mi diventa animale si fonde lanciare. Con me. Sì. Se io prendo Isaac e mi trasformo. Non è il tuo equipaggiamento, Isaac. Okay. Se però il cadavere di Isaac. Non lo so. Però. Che ti indossi? Che indossi come tipo una pelliccia? E tu lo scuoi e tu poi indossi la pelle, intendi quello? No, pensavo più a tipo. È presente il coso, no? SWAT che ci mette dentro gli Ucraini. Non funziona. cioè tu ti trasformi dentro il cadavere. Perché è un oggetto, è un equipaggiamento, è tipo un piomone. Oddio, è sempre tutto. Sono dei cavilli tecnici. Su salutate la capolista. Finalmente sale con i suoi veri amici. Salutatemi luridi, ma l'abbiamo fatto. Chi è questa? Ah, Alessandro Gimmiusi. E finalmente sale con i suoi veri amici. E ok, dai, c'è questo piano qua. Andiamo dal giocattolaio e gli chiediamo di chiamare Isaac con urgenza. Di far chiamare Isaac con urgenza e poi attendiamo nel negozio. Ok. Quando uscite dal giocattolaio da casa Vachter, c'è Isaac. E molto più facile di quello che pensavo. Ah. No, non vedete Isaac. Sono i progeni vampirici. Al sole. Ma catta è sì. Errore. Dimmi. Ah, stai ridendo su quello che sarebbe successo? Forse. Che bello. Comunque. Salire di due livelli contemporaneamente. Che lingua, che lingua conosci? Cobalt, Dwarfish e Inferno. Perché abbiamo preso tutte le lingue che. Vabbè. Beh, così potete. Come ogni buon cavaliere, conosco l'infernale. No, conosci il tuo nemico. È una specie celestiale. Perché il mio background era che io avevo letto. Bravo. Eh sì, solo che poi dopo Salla mi ha rubato quel background. Ma adesso ha rubato non quel c'è. Background. Lasa ha rubato quel background. Ok, allora c'è che background. No, che cazzo dici? Io sono 7. Con l'ideale da 3, legami 4, 2 difetti. Risposta esatta. Due difetti. Difetti due. Vabbè, usciamo e vediamo. Uscite e vedete i due figli di Lady Vachter, quelli che avete visto alla locanda, che stanno correndo di tutta fretta e tornando in casa, rincasando, e sono lì che sghignazzano tra di loro, mezzi ubriachi, non quanto vorrebbero esserlo, perché appunto sapete che c'è la scarsità di vino in città. Sì. E non farcelo pesare di nuovo. A uno da una spallata, facendo sembrare. Ah, se già che siamo, cosa stai facendo? Beh, voi, mentre state uscendo, i due figli della di Lady Fiona stanno rientrando. Sono lì che sghignazzano tra di loro, tu di tutta fretta. Quanti ne hanno? Hanno intorno al 28-30 anni. Ah, giovedì da giovanissimo. Atletico. Quindi tu fai finta di dargli una spallata. No, gliela tiro, faccio finta di non, di non farlo apposta. Adesso tira iniziativa. Sceo non è qui. Sceo cosa direbbe? Iniziativa. No, loro passano, è un cuccetto. No, Sceo voleva appenderlo al muro. Io non lo aggredisco con le mani. Iniziativa. No, è una prova contrapposta. No, il tuo intento qual è? Scusa. Athletics, una spallatina che magari cade. Quindi se era Sceo, fosse stato Sceo. No, se io adesso dicessi lo prendo e lo metto al muro, mi farebbe tirare. Ma siccome è Giulio. Siccome è Giulio. Ciao Sceo. Ciao Sceo. 23. Li prendi contro, lui balzi contro il muro. Ma cosa? Non era quello che volevo fare. Visto Sceo, così lui che si fa poco. Ovviamente non si accorge, anche perché è mezzo. Mezzo ubriaco, dato che mezzo ubriaco perde l'equilibrio e si va a schiantare contro uno stipite della porta e muore. No, e prende una legnata quasi contro la fronte e si gira verso di te. Guarda dove cazzo metti i piedi, coglione. Ma sei tu che mi sei venuto addosso. Io vado per soccorrerlo e dico: non ti preoccupare, beh, guarirai. Fallo così, leggi la pergamena ancora. No, Non hai ancora capito che tutte le volte trasferisci agli altri? Appunto perché l'ho capito ora che non lo faccio. Che persona inutile. E tu che cazzo sei? Sono d'accordo, però è il paladino. Ma queste qua sono figlie di nostra amica. Sì. Ma mica io uccido, date una spallata. Ah, che male, mamma. Lavoriamo per tua mamma, forse. Non abbiamo ancora capito bene. Ah, allora siete dei dipendenti. Bene, portami del vino. Tu guardi. È là. E indico tipo un punto a caso nella casa. Andiamo, Satanas. Lui si gira confuso. Come si chiama? Chi? I figli, no. Chi? Sì, il vicino che Giulia ha ammazzato. Uno si chiama Carle e l'altro Nicolai. Conoscete questo che è? Nicolai. Sì, ma... Nicolai, non fare caso, il mio amico è un po' burbero. Come sai il mio nome? Come sai il suo nome? Ce l'hai scritto lì? È qua, vedi? Allora, no, prendo un coltello. Nicolai. E Carl di tutta fretta prende Nicolai per la collottola e lo prende dentro e chiude la porta. Vai, dietro al giocatore. Buona vita. Ascolta. Dietro al giocatore. Andate dal... Ma non è mai c'era. Adesso è... dobbiamo muoverci. Pomeriggio. La mattina dopo arriva Isaac, che non ha giocato là. Non ha giocato là. No, sì, ma dobbiamo risolvere la cosa prima della notte. E allora andiamo a casa di Isaac. Avrà una casa. Quella del borgomastro. Noi uccidiamo il borgomastro. Cioè, chi se ne frega alla fine. Non vorrei che scorresse del sangue. Uccidiamoli tutti, dai. Mentre andate dal giocattolaio, sentite un gran rumore. C'è un baccano di urla e gente che corre e strepita. Tra l'altro, io avevo detto al giocattolaio di chiamare le guardie a far controllare il carro del bando. C'è una cazzo di pantera tigre dai denti a sciabola dentro. A proposito, ah, giusto. Mi posso trasformare? Ah no, non ancora, nell'altra campagna su livello 7. Quasi arci livello e la e provengono proprio dal posto dove stava il giocattolaio, che se vi ricordate era in questa corte dove c'erano i vagoni dove avete visto la tigre. Mi affretto. Lui si affretta, voi. Io vado, sì, con calma. Io anch'io. E l'altro, vabbè, sì, era così. L'altro si è fermato, si è messo una conchiglia all'orecchio, sta ascoltando. Scusa. Mentre siete diretti in quella direzione, vedete Koljonovic. Che oh merda, ma sempre in mezzo ai coglioni sto qua. Mezzo ai Koljonovic. Nomen. Ed è lì che si guarda intorno allarmato e quando vi vede finalmente ha un sussulto. Oddio, finalmente siete qua. Cosa è successo? Non trovo più la bambina. Gli do un pugno. Tira per colpi. No, iniziativa. Effettivamente con l'iniziativa. Ah, via, smacco di noi, fa 30. No, non fa 30. Però più di me. Quasi. Non potevi occupare di istante. 7. Lui ha fatto 4. Ah. Quindi non penso. E Giulio non è sceo e può fare la sua azione. La la la la la la la la la la la la la. 11. Bene, vedi Giulio che sta per caricare il suo destro, immagino. Sì. Sulla faccia di Koljonovic. Cerco di fermare Giulio. Gli dico, non è il momento. Vai, di perdere le staffe. Fammi una prova di... fatto una prova, una... cosa fai? Una prova contrapposta di atletica per fermare il suo pugno. Ma allora, sì, però senza fargli male. Però no, diciamo che l'idea di base gli volevo dire, vabbè, capisco la rabbia, però... E devi agire molto in fretta per fermare il cartone che ti sta arrivando. No, e puoi anche provare a convincermi. Se le parole, se vuoi. Sì, dai, convinci la parola. Cioè, dopo discuteremo sul... su chi ha sbagliato. Adesso dobbiamo prima di tutto recuperare la bambina per la sua sicurezza. Ok. Sentite, lo guardo malissimo e dico: e poi 20 di Atreides. Non si butta via nulla. 20 naturale o 20 in totale? No, 20 totale. No, tiro. Boom! No, diplomazia, scusa. E accoglio a Novicello un cartone in faccia. È il 24. Ti alzo, ti sbatto contro coglione. No, ormai non hai preparato. Subisci il mio 20. Ok, sentite il grido di una bambina. Se fosse stato un attacco sarebbe stato critico. Si sente il grido di una bambina provenire dalle stalle. Corro. Non correlato. Corro. Esatto, totalmente corriamo, non correlato. Corro e mentre corro faccio così a Kolionovic. Corre, corre, Batman. Arrivate davanti all'ingresso della stalla. C'è una finestra aperta in alto in cima ad un mucchio di casse e poi ci sono i due sportelloni di legno. Mm-hmm. E il grido da dove? Il grido viene dall'interno. Da dentro? Da dentro la stalla. Ah, la stalla. C'è davanti alla stalla. È chiusa? Vedi, l'apro. È aperto. Apri e vedi classico stalla con tutte le, come si chiamano, gli slot dove stanno i cavalli. Sì. E praticamente in fondo c'è sopra questa, sono le impalcature di legno classiche delle stalle. Sopra un'impalcatura c'è la bambina Arabelle e Ara che si è arrampicata in alto, e sotto c'è la tigre dai denti Sciabola che cerca di prenderla, e in atteggiamento ovviamente molto ostile. Quando entrate si gira verso di voi e vi ringhia contro. Iniziativa. Tigre questo? Sì. Un povero animaletto del bosco, Arci. Boh, iniziativa. È quello che vedrei. 15. Un attimo, dovrei scrivere queste cose. Dai però! 20. Figa, oh. 12. No, più 2, pensavo di far 22, mi ci ho fatto 20. Valdistran 15, 12 Atanas. 20 io. Dimmi. Tira su Insight. Tira su Insight. È il master. Vabbè, devi continuare. 20. Non ho fatto 20 io. A poco mette. Bravo, capo. 25. Infatti. Svegli però il master. Contrariamente alle aspettative, le apparenze. E dove cazzo sta quella tigre dentro la sciabola qua? Te lo dico io. 52 pf? No, un po' di più. Una tigre. Un po' di più. Che manuale hai, scusami? Saber tutte tiger. 62? Cosa ne è? No. Ah, ma perché quella non è quella del manuale. Ah, è quella del manuale dell'avventura. Perché tu ti ricordi per certo, è una delle mie forme selvatiche. Era preparatissima, infatti. Sono delle sue mosse speciali. Ah, ed è questa anche addosso, se vi ricordate, una catena. Bisonte. Un'armatura. L'half plate, che in italiano è. Come? Beh, perché? Magari posso provare ad ammestrarla. S. Ma il nostro scopo qual è? Scusami, ucciderla, no? Sbranato la bambina. Ha sbranato la bambina? No, sì. No. Vorrebbe sbranare la bambina. Il nostro scopo è salvare la bambina. La vogliamo sbranare prima noi. Il nostro scopo è sbranare la bambina, se diventa un osso la sbrana. Si vede tipo la tigre. Tranquilla. Si vede Arci, diventa un orso. Si arriva più in alto. Così la tigre. Tigre di dente sciabola. Sì, è più grosso del normale. Madonna, se è più grosso del normale. 52 tu. Decine di miglia. Siamo in tre. Inizia lei. Oh. Come ho fatto a superare il mio 5? Sì, sì. Con molta fortuna. Ma è tanto legata? No, è fuori, nella, è libera, non è dentro al carro. Chi l'ha liberata? È un bardo, direi. Infatti dopo gli taglio le manine. Ma non era neanche legata, è fuori libera così? Beh, in questo momento... No, la stalla era chiusa, è libera dentro questa stalla. Sì, ma non ha una catena legata a un coso in cui ci piace no. Ok. E anche una spalla. Tocca lei. Tocca a lei. E anche una spalla. No, ha le sciabole. Beh, alle cose. Decine di sciabole. E ha una Gatling sulla schiena. Decine. Visto che ha l'armatura. Allora, Pounce. Pounce. Ha il salto. Se si muove in linea retta per almeno 6 metri, esatto. Deve fare una prova di forza. E perché ti balza, diciamo, di là, tu cadi a terra e poi prende un attacco in più lei. Esatto. Con il bonus action. Fa un bel po' di danni. The damage is. Va bene, chi c'è davanti a voi? Il paladino. C'è entrato prima io, forse. Ah, sì. Eri più. Eri più. Io mi sa che eri in bagno in quel momento. No? Quello dietro. Chi vuole? C'ha le gambe corte. Faccio la fiammetta. Quindi lei. Che cazzo voglio mettere? È una battuta. Siamo in tre. Uno sull'altro, dai. Zompa nella vostra direzione. Fai il salto in avanti. E quindi. Ci sorpassa. No, devi fare almeno 6 metri di diretta. Da fuori. Vai in avanti. Micchino. Fuori di controllo. Non se lo aspetta. No, proprio dietro la trappola che aveva il bastone. Lui deve tirare sulla falsa. Se lo colpisce. Azzada Isaac. Se lei lo colpisce, sì, okay. Deve fare il. Non può prendere qualcuno che ha vinto. Chiami... tu? 16. È possibile che prenda. Quindi ti fa l'unghiata. Ti fa un botto di danno tra l'altro. Sì. Che bello. Dai. 11 danni. Ok. E poi devi fare una prova di forza CD 14. Ma lei è anche morso, E faccio 14 solo col dado. Quindi è, diciamo, lei ha unghiata e morso e se ti fa cadere ha anche di nuovo l'altra unghiata. Però di azione, non ha il multiattacco. Ha un'azione o fa l'unghiata o fa il morso. Però ha l'opzione di fare il pounce. Se col sì, balzo ma lei, no, lei mi sa allora che tu devi fare il morso in automatico. No, se, lo fa no, se, come azione bonus se ti, ti, se ti becca con gli artigli. Se ti becca con gli artigli e ti butta a terra. Esatto, allora ok. Cosa che invece tu sei riuscito a resistere. Vardistran, cosa fai? Kentachis. Cioè, mi ha toccato però. Kentachis. Faccio Bonox Action Hunter's Mark. Che è perfetta. Proprio la cosa più adeguata. Per cacciare una presa. Ma che l'hai cacciato? Ah, sì, pensavo mi sfottessi. No, che e poi provo a colpirla, fare una cosa che non faccio praticamente mai. Qual? 19? Colpito. Ci sta, quindi non mi sei in più. L'uomo di Milano è pace. Allora, il 2 lo devo ritirare. Molto meglio. 9, 12, 16 danni. Oh. Ringhia di dolore. Con i suoi 150 punti ferita con. Che hai fatto? 16. Atomas. Quindi lei adesso sei concentrata su di noi. Sì. Beh sì, c'è mia. La chiama. Ho ancora solo due attacchi, che merda. È schifo giù. Cioè, un doppio 2. Non male. Con vantaggio? Prima no, di tutto attacco. Pack. No, aspetta. Report team. Mi sa che warrior. Io dovrei fare da chi non sordo. Sì, movimento. Chiama le dimostri. Disengaggia un'azione però. Sì, hai spostato le tue capre. No. Sì. Sta a sentire. Tocca a me? Non lo so. Stai riflettendo. Già, sì. Tu intanto prepara quello che vuoi fare. Qual è la tua manovra? C'è manovra. Ma perché l'avete in inglese sta merda? Vabbè, niente. Ma è brown. Sta terzo. Cosa c'è? Brown bear! Cosa trovi anche la giocatura? Io ho l'azione e bonus e divento brown bear. Ah no, non volevo cercare di andare a domesticare. Ormai. E la picchio. E poi non è naturale, è un'armatura. Cioè. La tigre ha un'armatura, non è naturale. Che qualcuno gliel'ha messa. No, sì, si è messa lei. Io non la riconosco una tigre, però. Ma sembra una marca di genere. È una macchina! È ostile. È una macchina. Prova a destrarla. Però prendi quel cerchio di fuoco. Ma è che non si è mai trasformato in praticamente in orso, lascia trasformare. Ma al massimo quando è forse un po' ferita posso provarci. Che non è male. Quando è ferita ci sta. Fail! Ti sei trasformato 16. In orso. Mancata. 16 mancata. 16 mancata. Due coglionovic. Troia. Sta di nuovo a lei. Sta di nuovo a lei. Che vede improvvisamente di fronte a sé un orso dove prima non c'era. Anzi, dove prima c'era un cicciottello o un nanerottolo delle. Una rossa grossa. Non è punto feltano. Delle colline. Che il problema è che. Quanti punti ferita hai come orso? 75. 34. Vedi che il suo olfatto. Sballa perché ovviamente cambia l'odore e perde il turno, quindi disingaggia e fa un balzo indietro allontanandosi confusa, come se stesse cercando di riannusare la traccia della sua preda, e quindi va a 40 piedi da voi. 40 piedi? Da 40 piedi. Vabbè, è la mia velocità. 12 metri sono. Sì. 9 metri cioè, sono 30 è la mia velocità piedi. Da orso. Ma tipo che sta scappando? Sì, salta indietro, confusa, mm-hmm. E va lontano da voi. Okay. Cioè, di nuovo vicino alla bambina? Sì, è tornato dove c'era la bambina ed è lì che annusa. Che non so se è lontano da lì. Quindi è fuori portata. È a 40 piedi. 12 metri. Sapevo che dovevo prendere un cazzo di arco. Una balestra non posso io farlo. Mi avvicino di 30 da. Piedi e la sparo. Più. Giavellotto. Vai. Inutile. Paladino. Abbastanza. Merda. 4. È carichissimi stasera. Ragazza, se metti l'armatura completa la tiro di sciabola. La bambina è tipo su un piano rialzato. Per esempio le stalle canne. Ah, beh, no, in realtà se l'hai scappato senza salvare la bambina senza uccidere la tigre. No, come potrei raggiungerla? Verso la bambina. Era quello che volevo fare. Così con le mani e facendola scendere, tipo. Quindi non posso tipo issarmi in un soppalco e andare verso di lei. Puoi arrampicarti, quello che in effetti mi piace fare. Posso farlo? Sì, certo. Faccio l'athletics. Tutti fuori. Per cercare di issarmi su e spingermi verso la bambina. Sì, ti arrampichi sulle travi in cima. No, poi... per farlo con l'athletics, per farlo figo, cioè... In realtà Giulio, però io con l'orso ho climb 30 piedi. Sì, ma tu devi andare contro la tigre, che sei l'unico che ma se la tigre è andata verso la bambina. Sì. Invece potevo prendere la bambina e andare via, no? Beh, no, perché c'è la tigre di mezzo. Puoi fare quello che vuoi nel tuo turno. No, era perché pensavo che... Sì, è arduo, con l'orso che raggiunge la bambina. Sì, tra l'altro. Athletics, appunto, usi la tua forza per scalare. Beh, in che modo pensavi di farlo? No, usando la forza, se non faccio... Poi faccio un'attrazione, mi vado sopra tra le travi tipo gorilla, esatto. E 21. Ok, sei a metà strada, prossimo turno arrivi alla bambina. Patk. Allora, io mi muovo di 30 piedi con climb. Io ho modo di raggiungere, siccome la tigre è andata di 40 piedi in linea retta, ho modo di farmi io 30 piedi, tipo sulle pareti, in qualche modo, per prendere la bambina prima della tigre. La bambina a 40 piedi. Però magari in alto. Ah, e quindi è massimo più distante di 40 piedi. Sì, eh no, dipende se ci vada tipo sopra, capito? No, non dipende. Cioè, la distanza è sempre quella. No, se lei se sono 40 piedi in linea retta, lei è qua. Magari su un coso in alto, che così ci metto meno. Capito? È un triangolo. In un triangolo rettangolo, l'ipotenusa è sempre maggiore dei cateti. Sì, ok, però magari cazzo ne so. Sì, vabbè, dai, però, cioè, giusto. Comunque se fai... Magari per un orso non vale, non lo sa, cioè... No, però magari ci sono dei modi in cui riesco a saltarci, cazzo ne so, capito? Ma ammazza sta tigre, basta, spostala. Venga, non la ammazzerò mai, è corazzata di merda. Spostala, falla scappare, cioè, puoi salire e avvicinarti dalle travi del soffitto scalandole, ma arrivi praticamente dove è arrivato lui con la sua prova di scalare. No. Lasciami solo. Vabbè, tanto ci prendo la tigre in corpo a corpo, te che era me. Te c'è un dico che ci può arrivare, che hai 40. Sì, vado sulla tigre allora. O vuoi che io continui a tirargli? Allora, ragazzi. Dai, su. Ah, raga. Che hai fatto? 3 e 9 di dado. Beh, 9 e quant'è? 15. Sta la tigre. Sta la tigre, che vedendo appunto quest'orso che col suo tanfo disorienta i suoi sensi. Prova a uccidere la bambina. E ti volta alle spalle, quindi se vuoi un attacco d'opportunità. Madonna, stroncio. Critico. Non devo confermarlo. No, niente, si ferma. Ah no, però io ho molti attacco. Io quando faccio attacco... Hai 2 attacchi. Quindi anche l'altro. 20. 17. Colpito. Aia. The Stupus Begins. Che via, se vuoi. Però il critico non moltiplica la forza, giusto? Già, sono danni. Quindi faccio 7, 8, più 4, 12. Più 11. 23. Che cazzo. Ha maggior ragione. Quindi dopo che si è beccata ste slap della Madonna. E lei comunque va avanti, no? Lì non è che si becca degli schiaffi e attacco, lei si ferma. Cioè, si ferma, prende il danno e poi va avanti. Salta sulla parete opposta da quella a cui siete entrati e arriva ad una finestra aperta che c'era a quei 6 metri di altezza e salta fuori dalla stalla. Okay. Arrivi a prendere Arabella, o come si chiamava? Clarabella. Arabella. Posso anche lanciare un quadrello alla tigre? È già fuori quando tocca a te. Cioè, in realtà toccherebbe a Bardi strano. E vuoi fare qualcosa? È fuori, È fuori, ma si è buttata fuori, cioè poi non è che si è allontanata. Sì, ma c'è un muro tra lei e voi. Non c'è una finestra? Sì. Lei ma è sopra però. Ancora più sopra. Cioè, tu puoi sparare in alto, spandi quando cade. Infatti la palo un bello. Tira lo svantaggio. Devi vedere il bersaglio per cui nel mio cuore lo vedo. Fai fare uno svantaggio con 4, dai. Io farei 2 movimenti sì. Per uscire dalla scuderia e vedere se vedo la tigre. Sì. Esci dalla scuderia. Lui mi dice a destra, a sinistra, in alto. Io sparo. No. E giri l'angolo per vedere il vicolo sì. Dalla quale è scappata e vedi che si aggira guardandosi intorno il mezzelfo bardo della taverna Rectavio. Comunque, ma è il turno di Vezzo di Giulio? Il turno di Vezzo. Comunque nell'artiglieria c'è il tizio che manovra il cannone e l'altro che dice 30 gradi a destra. C'è anche l'effetto di Coriolis che la terra sotto si sposta. Questa è la stalla, no? Voi siete entrati da qua. Lei è saltata da una finestra da questa parte. E tu hai fatto così. A destra o sinistra? A destra o sinistra? Ehi tu, fermo! Ma verso la tigre adesso. Si volta, ti guarda spaventato, poi ti riconosce perché ti ha visto alla locanda e cerca di assumere un'aria, come dire, incolpevole. Sì, esatto, indifferente, no, non indifferente. Innocente. No, no, no, ma scappa in avanti. No, buonasera. Si toglie il cappello per salutarti, dice: oh, ma che cos'è questo, tutto questo scompiglio, signor Caprode Cavaliere? Non siamo più nel turno. Sì, potete agire, recuperate Arabella. Mi sincero che sia bene. Sì, sta bene, hai vestiti un po' strappati. Vado da Koglionovic e dico: cerca di non perderla di nuovo, se non vuoi che ti faccia saltare tutti i denti, testa di cazzo. Rimango orso ancora per un po'. Lui è molto dispiaciuto e ti dice che l'avevo persa di vista un attimo, stava solo giocando. Sì. Bene, io potrei perdere di vista le mie spade che potrò finire nel tuo stomaco e in quello di tua sorella, capito? Dimmi. E poi, questa parte. Quando ho finito, raggiungo lui. Qui è pericoloso, c'è una tigre in libertà. Oddio, una tigre. Presto! Che cosa terribile, dove l'ha vista? Presto, venga da me. Viene da te. Dov'è questa tigre? Me lo dica. Diventa perché noi avevamo visto che lui si girava per la cosa, per quello della tigre, giusto? Qualcuno vi aveva detto. No, il carro dove c'era la tigre è il suo, eh. Lui è il proprietario del carro dove avete visto. Io ero stato. Mi ero arrampicato e ho visto che c'aveva le bambole a forma di vistana che lanciava dentro e la tigre sbranava. Ok. È vicino a me? Io ve l'avevo sì, è arrivato da te. Tu sai che ti sta dicendo. Io sono anche io. Io ho raggiunto Vez da orso, però. Ah, sì, allora lui si ferma. Vedete. Io provo a prenderlo. C'è un orso dietro di lei. Io provo a prenderlo. Questo è il mio orso. Io provo a prenderlo. Attacca. Sì, lo prendo in lotta. Vabbè, si fa prendere. Mi dica, sì, va bene. Come si fa prendere? Ma tipo poliziotto, sì, no? Che lo butti a terra. Ci deve dare delle spiegazioni. Venga con noi. Mi scusi, ma io stavo solo facendo. Pensando ai fatti miei. C'è una tigre qui vicino. Dobbiamo mettere al sicuro. Davanti alla stalla c'è gente, o no? C'era davanti gente. Alla stalla? All'interno della stalla c'è la gente? No, adesso non c'è. Prima, adesso no, sono scappati tutti. Ah, allora lo porto dentro la stalla. Sì, ti segue. Ti segue, o comunque lo porto. A Koglionovic ho detto di entrare nella locanda, nella camera e chiudersi lì. Tra l'altro adesso con loro immagino ci saranno anche Race e tutti gli assenti qua. Esatto. Andate tutti nella camera. Koglionovic prende la bambina e fa quello che gli dici senza fiatare. Ah, gli hai dato la bambina? Cioè, immagino. Sì. O la volete tenere con voi? No, okay. No. Cioè, immagino che abbia capito che se fa un'altra cazzata lo ammazzo, quindi... lei ci deve perché io ho un grande cuore, dottor Bardo. Poi raggiungo lui quando ho finito. Messer Bardo. Indubbiamente, signor Gardistran. Dimmi quando arrivo. Quindi avevo ragione. Lei ha sempre è avuto tutta, ragione. È tutta colpa sua. In parte sì. Confessi allora. Beh, confesso di aver temuto troppo la mia incolumità, questo sì. La scusa di tutti. Cosa? Vabbè. Quando arrivo? Sì, adesso arrivi anche tu. Raga, mi guardo intorno, c'è uno di quei bei martelloni. Ci sono gli attrezzi per ferrare i cavalli. Sì, ok. Vabbè, prendo un martello. Hai un martello. Mi avvicino. Ma come può vedere il messerata qua invece tiene molto alla sua forma fisica. No, non è un martello da guerra. Esercizio. Ma ci dica invece perché quella sua tigre zompettava allegra per le scuderie. Dovete sapere che la mia cara... Vabbè, la mia calda compagna di come? No, la mia scaldapiedi preferita condivide con me il viaggio da molte lune E come sapete, una persona che viaggia molto in queste terre deve munirsi di precauzioni contro certe persone che sì, di solito rubano, sporcano. Hanno... Sembrate condividere le stesse passioni anche da un punto di vista culinario. Come, prego? Perché hai sguinzagliata contro la bambina? Ah, la bambina. Non è di qua, vero? Che te frega? Potrebbe cosa? Essere il motivo di questo. E non uno spintone. La prego di mantenere la calma, ti signora. Ti spacco tutti i denti. Così vedi quanto tengo la calma. Fossi lei, cercherei di, insomma, trattenere gli istinti. Siamo tutti uomini civili qua, voglio sperare. No, lei pare che sia un mezzelfo. Sì. E lui è un orso in questo momento. E lui è un orso. Orso. Io non capisco molto bene le cose. Forse sono un po' pazzo. Da quello che allora, ho sentito dai vostri compagni, mi sembrate persone per bene. E magari potremmo aiutarci l'un l'altro. Prendo fuori la testa della bambola, che adesso ha un corpo in realtà. Esatto, è una bambola completa. E la bambola ti dice ciao. Ciao Isabel. Vedete lui che saluta la bambola. Si spieghi su. La mia dolce compagna di viaggio è, dovete sapere che è addestrata per cacciare i vistani. Un nobile sport. Sono d'accordo, penso. Io personalmente li reputo la genia peggiore di questa terra e ho ben ragione del per vedo però che non, ha, grande conoscenza dell'ironia e del sarcasmo. Ci do un calcio, un calcio. E quindi è vero che l'ha sguinzagliata perché contro la e quindi è vero che l'ha sguinzagliato contro un'innocente bambina. Il suo amico mi ha dato un calcio, non è il modo di comportarsi. Beh, con persone civili. Ci sono anche i ferri per ferrare i cavalli. Inizio a prendere i ferri per ferrare i cavalli. Da quello che ha detto, cioè, finora lei sembra più mostruoso della sua tigre. Ci dica comunque il suo piano. Oh, il mio piano era molto semplice. Io sono venuto a dominare tutti i zingari. No, quello è solo tu sei orso, vabbè. Il futuro di Vallachia a est. Mi faccio e io ero venuto in questa città per studiarne alcuni dei suoi abitanti, in particolare i gestori della locanda. E giro queste terre da un po' e probabilmente come voi sono bloccato qui e sto cercando un modo per uscire. Non lo so, io mi sto iniziando a trovare bene. Mi perdoni, forse non capisco bene cioè di cosa si occupa. Inizio a avere dei tic nervosi. Io ho avuto modo di discorrere con i vostri compagni alla locanda e non ho modo di dubitare delle vostre buone intenzioni, tranne forse di qualcuno di voi. E cioè, mentre vede che io sto prendendo tipo i chiodi per ferrare i cavalli. Esatto. Il sacchettino, mi sto riavvicinando. Immagino che a questo punto sia chiaro per tutti che la mia attività sia solo una copertura. Io sono qui per trovare il modo di sgominare la maledizione che infligge queste terre. Che tipo di maledizione? Che tipo di terre? Beh, effettivamente ha ragione, qui ce ne sono parecchie, è una terra molto sfortunata. Però io, quando dico questo, mi riferisco alla maledizione di queste terre, personificata nei panni. Contestrato. Esattamente. E che cosa c'entra con i vistani? Contestati. Inizialmente nulla. Diciamo che principalmente con i vistani nutro un vecchio rancore. solo, è tutto di personale, puro razzismo. Esatto. No, degli antichi trascorsi tra me e loro, diciamo che non corre buon sangue. È un buon motivo per cercare di far sbranare una bambina. No, non potevo certo sapere che ci fosse una bambina vistana in un posto dove in teoria i vistani non sono permesso entrare. Ma diciamo che sono dei sacrifici che sono disposto a compiere, perché loro hanno tolto molto di più da me di quanto io potrò mai togliere a loro. Ma non sai quello che noi possiamo togliere a te. E quindi ha liberato la tigre di proposito? No, sono sorpreso quanto voi, pensavo fosse al sicuro, deve essere successo qualcosa al mio vagone e lei si deve essere liberata in qualche modo. Il vagone dove si vede? Qui da dove siete voi? No, è un altro edificio. Non sai. Che schifo. 17 totale. Io ho fatto... Vi sembra sincero, anche perché probabilmente lui... 8. Capisci che stesse tenendo la tigre per, e la stessa addestrando, perché avete visto anche una bambola vestita da vistani, sbranata nella carrozza. Lui stava addestrando la tigre per poterla sguinzagliare su dei vistani per ucciderli. Sì. Cioè, nel senso, non la voleva liberare lì. No, lo so. Quindi, però è abbastanza, so come dire, cioè non depone a suo favore. No, però il fatto che adesso non l'ha liberata lui. Cioè, lo stava facendo esattamente quella cosa lì. Come se stessi addestrando si procurando un virus per sterminare i francesi, per sbaglio è Giro Bologna. Io capite che l'obiettivo non è bello, ma se il suo obiettivo è distruggere il Ponte Strad e dice che non, con i vistani c'entra il giusto. No, il suo odio con i vistani è precedente alla situazione attuale, ma adesso a maggior ragione vi dice i vistani sono servitori del maligno. E insomma, agiscono come loro spie, come non loro tutti schermi. E le colpe dei padri non ricadono sui figli. No, ma queste sono colpe dei figli. Ricadono sui padri. Ricadono anche sui zii a volte. Tu come ti guadagni da vivere? Nipoti, si sa. Ufficialmente o? No, ufficialmente. Ah, ufficialmente io sono un bardo. E quindi cosa fai? E racconto storie nelle locande. Ufficiosamente, diciamo quindi che... se io ti tagliassi la lingua sarebbe un peccato. Certo, sarebbe molto scomodo da parte mia, ma le pregherei di cessare le ostilità, insomma. Direi che stiamo parlando tra persone civili in questo posto. Un oppositore di strada è sempre utile, d'altra parte un pazzo omicida di vistani... Se lei insiste a sbarrarmi la via, allora mi sfidi a singolare attenzione e vediamo chi la brutto. Dobbiamo assolutamente fare in modo di richiamare questa bestia. Ora lei ci aiuterà a farlo. Sì, vi sarei grato se no, riuscissimo. Adesso la richiamiamo. Poi, e poi faremo in modo che non esca dalla gabbia. No, io una volta che la recupererò mi allontanerò il più possibile dalla città prima che venga scoperto da quel bruto che accompagna il barone. A proposito di questo, potrebbe forse esserci utile per un'ultima opzione, però intanto recuperiamola. E quando io troverò la tigre, recupererò anche quello che immagino resta del mio carro, scapperò il più velocemente possibile fuori città. Vedremo se mi aiuterete, saprò ricompensarvi e mi potrete trovare nella... vi spiega dove, c'è una torre in mezzo a un lago a nord-ovest della città e troviamoci lì e direi che potremmo avere entrambi dei vantaggi in questa collaborazione, sempre se il vostro amico è d'accordo ovviamente. Il tuo carro dov'è? Cioè è dove l'hanno lasciato? Lo spero, infatti vi pregherei di fare strada e di muoverci più velocemente possibile prima che arrivino le guardie. Lo spintone in avanti per uscire dalla stalla. E mi porto dietro i martelli e il chiodo. Che ho in mente un paio di cose. Fermiamo la bambina. quindi alla fine di fatto andiamo dal suo carro, no? Sì, bisogna vedere il successo. Arrivate dal carro, lo vedete che Checco, comunque mi ha scritto ammazza Vez da parte mia. Chi? Checco. Tu sei ancora un orso. Mm-hmm. Ok. Ah, quindi arrivi prima tu. Se corri. Lei aspetta, non è che gli aspetti. Farà l'orso domestico, diciamo. Sì, sono io comunque, non è che. Cioè, li seguo da orso. Sì, ho capito, però tu muovendoti ti muovi più velocemente, quindi hai la possibilità di arrivare prima di loro. Però se vai a loro passo. Ma quanto è il carro? Quanta distanza è? Cioè arrivano 5 secondi prima di loro. No, c'era un paio di isolati di distanza. Beh no, li aspetto comunque. Non c'è una gran differenza, però se vai. Perché è un orso che corre in mezzo alla città. Eviterei, ecco. Perché dici? Tanto penso di vari tipi. Arrivate da questo portico, questa corte interna dove c'era appunto il carro e dove su questo posto dava anche il negozio del giocattolaio. Il carro lo vedete che è rovesciato sul lato e la bestia quindi è facilmente potuta uscire dal tetto. E vedete, non era legato dentro al carro, no? Vedete appunto che c'è la catena che la teneva, che lì faccio un investigation. Bene, mentre lui sta lì a guardare il carro, voi fate qualcos'altro? Allora, vi dicevo che vedete io intanto faccio un annusare per sentire se oltre da orso, per sentire se oltre l'odore della tigre c'è qualcos'altro che mi viene un po', quindi un perception. E ho vantaggio da orso. Perception. Vi stavo dicendo, prima che mi interrompeste, che c'è la porta del negozio del giocattolaio spalancata. Che ironia! Ho vantaggio e ho fatto 2-12. Senti puzza di... No, è 12. Senti cioè, puzza è di alcol. Una saggezza, no? No. Quindi... Vabbè, 17. Senti puzza di alcol tra oltre al tanfo della tigre che segui la traccia e va verso il negozio del giocattolaio. Io do uno sguardo. Mi avvio anche verso il negozio del giocattolaio. Io do uno sguardo dentro col negozio. Io dopo che ho finito di cosare il carro con 14 mi sposto anch'io. Vedi che il carro è stato rovesciato e il perno su cui stava fissata questa catena si è rotto nel rovesciarsi. La tigre a quel punto era lì. Ma c'è qualcosa in cui si è rovesciato? Perché ci vuole una bella forza a rovesciare un carro dentro. Qualcuno. La tua investigazione è che qualcuno può averlo. Vorrei fare fatto apposta. Una prova di athletics per ribaltarlo dal mente, no, per capire quanta forza effettivamente ci voglia per fare una cosa del genere. Cioè lo metto tipo lì. Ok, però intanto non stavate entrando dal giocattolaio. Sì, vabbè, ok. Siamo lì, facciamo prima l'uno e poi andiamo dal giocattolaio. Possiamo? Però ti dico che senza dover fare una prova ad occhio, un paio di uomini ce la possono fare. Un paio di uomini ce la possono. Soprattutto se il contenuto all'interno non sta fermo, ma magari sballonzala da un'altra parte, dai ridai. E, il giocattolaio, sì. Quando entrate vedete questa scena. C'è Blinsky che si è arrampicato su una delle mensole più alte ed è rannicchiato, tremante, completamente bianco in volto, terrorizzato. E nel negozio vedete appunto che c'è la tigre che sta giocando con la scimmietta di Blinsky. Ah, è lì. No, la scimmietta di Blinsky, il cazzo. dovere. Ce l'avevo anche a casa della vecchiazza. Ce l'avevo sì. E poi sei diventato un orso. E lei è forte il mio equipaggiamento. Comunque sta giocando. Sì, stanno giocando insieme. Con la mia piccola tigre? Con la tigre. Arriva dietro di voi Rictavio e dice: ah, per fortuna non è successo niente. E... torno nano e dico: Frank, torna qui. Lei abbandona la tigre, arriva a metà strada, si gira verso di lei, la tigre tutta triste che la guarda e ti riguarda verso di te, riguarda la tigre. Beh, Frank gioca ancora un po' con la tigre. E torna dalla tigre. vi presento piccolo, la mia fedele compagnuccio. Era il nome della scimmia prima che tu la chiamassi Frank. Ah. E Frank Castle, è il mio buonissimo amico Blinsky. L'avete già... è vero che l'ha dato lui a... l'avete già conosciuto, immagino. Sì, la situazione vedo. Blinsky, scendi pure, esatto. Non hai nulla da temere. Ora vi chiedo per favore di in fretta rimettere in pista il mio carro così che possa dileguarmi il più possibile, il più velocemente possibile. E mi raccomando, venite a visitarmi dove vi ho detto e saprò ricompensarvi adeguatamente. Blinsky, e i pupazzi a che punto sei? Gli dico... ma vado anche dove? Rictavio. Gli dico: ok, ma se sapremo che avrai fatto stragi di Vistani, verremo a cercarti, non sarà certo per una collaborazione. Fatti complimenti. Non capisco la vostra affezione per quelle cose, però la rispetto. Anche i mezzelfi sono cose, però immagino che tu ci tenga la tua vita, cosa. Le chiediamo di concentrarsi sul suo nemico principale. Se sarà così, potremo anche avere una collaborazione in futuro. Va bene, sono d'accordo. E se avrete bisogno di aiuto, comunque il problema non è uccidere le cose, è uccidere le cose che non hanno fatto niente. Cosa? Ah. Anch'io uccido le cose. Però di solito hanno fatto qualcosa. Oh, ma a me hanno fatto molto più di ma no, sì, ma se tu trovi Vistani che ti hanno fatto qualcosa e li uccidi, vai bene. Siamo d'accordo. Ma se uccidi una piccola bambina, no. A volte gli imprevisti capitano. Già. Anche con questi chiodi e il martello. Quindi vedi che fare capitare. Bene, signori. Vi lascio alle cure dei vostri conoscenti. E indica l'ingresso dal quale siete entrati, dove cominciate a sentire il passo di diverse persone armate che immaginate essere le guardie che attirate dal casino stanno arrivando. Ma quindi abbiamo sistemato il carro? E lui parte e va il più velocemente possibile verso l'uscita opposta. E noi ci mettiamo da parte, vediamo quante guardie arrivano. No, vabbè, scusa, devo stare lì dentro al giocattolaio a parlare, sì, con Liz. Va bene. E lui, no, lui è sobrio, cioè non è lui che ha bevuto. Lui chi? Il Rictavio. No, burattinaio. Ma il giocattolaio no, è sobrio, è solo morto di paura a vedere una tigre che si è entrata nel negozio. Meglio, grazie. Hai per caso visto chi ha rovesciato il carro? Io non ci ho fatto molto caso, in realtà. Vedevo quei due ragazzi. Come si chiamavano? Nicolai e Metti è morto. Si aggiravano qui intorno, non avevano niente da fare, erano annoiati. Sì. Gamba rotta e cuore strappato. Sì, li conosco. Cioè, testo. Loro bevono solo dalla mattina alla sera, ma non c'è vino, quindi si annoiavano e erano qui che giravano scherzando. Poi ho sentito grande rumore, visto il carro rovesciato. Ah, tranquillo, Nicolai. Nikolai Blinsky. No, tra un po'. Izek, le bambole! Oh no, non ho avuto non ho fatto in tempo a finirla, adesso verrà qui e mi ucciderà. No, no, ci siamo noi, tranquilli. Siamo noi ad ucciderti. Volevo dire straccione, volevo dire. Lapsus. Preso un po' d'acqua, ragazzi. No, che riusciamo a mettere a posto questo qua con il mio ordine. Cazzo, perché c'è sta trappola infernale? Ma non era appena. Vabbè. Sì, ma ne ho un po' io, scusate. Ok. Per le sue polveri. Un attimo il bagno. Sì, intanto che si droga. Pausa. No. Pubblicità. Ti ho letto? Presterò dei soldi per venirmi a trovare. Presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte per ricominciare. Una notte. C'è un amico che lavora dalle 9 di mattina alle mezzanotte a Milano. Cosa fa? Qualcosa di legale, tipo consulenza. No, tipo sì, tipo mezzo avvocato. Cioè. Spara di fuoco. No, beh no, poi dico per fare carriera e queste cose qui, però non mi sbatto. Cioè. Poi essere per fare i libri, fare di coca. Hanno di coca e camerieri a Londra. No, non è tipo che si fa di coca. Però oh, bello sbatto. Stai calmo, canta. Cos'è? Cosa vuol dire boh? La porta ho visto come una goccia che cadeva. Mettiti l'uccello nei pantaloni, magari. Ah, ecco. Cosa è successo? Tutto questo ricordo che è andato in diretta. Ho visto ho avuto un flash. Mi sembrava che ci fosse una goccia che cadeva dal soffitto, ma sopra non è bagnato. Vabbè. Se c'è arrivano le guardie. Ci trovano ad aiutare Blinsky a mettere a posto. Quante guardie sono? Sono 8 guardie. Senza Isaac, però. Senza Isaac. E si guardano intorno e bussano alla porta del negozio di giocattoli. E fanno aprite, polizia. Ah, milizia, guardia, polizia. Polizia? Non è che polizia? Che non è la polizia? Ma no, polizia è il mio corpo. Ha il mio corpo io? Sì, non sono fantastico. Apro la porta. Buonasera. Aspetta, apri, sì, ok. E poi, dove avevamo ancora il sigillo? Sì. Che diciamo... Buonasera, tutto in ordine qua adesso, in sala del CG. Avete visto qualcosa? Abbiamo ricevuto molte segnalazioni che ci fosse degli scompigli in questa parte della città. Un gatto un po' troppo cresciuto verso tutti i loro. Sì, l'unica cosa che credo è che un uomo forte abbia ribaltato il carro contenente la tigre. Ma un uomo forte da solo non riuscirebbe mai a ribaltare un carro di quel tipo. Dove è finito a proposito? C'era qua, non mi ricordo. Siamo arrivati che... Chi scusami? C'era un carro là che adesso non c'è più. Sì, il bardo aveva avuto una chiamata ad un'altra città, si è allontanato d'urgenza. Siamo arrivati che si stava dirigendo verso quella direzione, indico quella opposta rispetto a quella dove è andata. Ma strano, allora avremmo dovuto... No, scusa, indica quella in cui è andato, che se ne frega, sarà già andato via. Ah no, scusate, il mio amico ha problemi di orientamento. Siamo proprio arrivati da là, cioè... c'è una strada, vezzo, sto coso, cioè non è che c'è un minimo. Ma loro non sanno da quanto tempo siamo là. Una strada. Quindi ciccia, diciamo, evidentemente... Beh, devi tirare su inganno, se c'è una caccata. Va bene, va bene. Passo. Aspetta, arriva lì. Cosa è finita comunque? Comunque, dico, comunque vabbè, adesso non c'è tempo per questo. Dobbiamo assolutamente uccidere Isaac. Dobbiamo assolutamente parlare con Isaac. Sapete dove possiamo trovarlo? Tiro su Persuasion per convincerli a dirlo. E faccio un 21. Merda, mezzo. Bravo. Il capitano, certo, stava in piazza quando ci ha detto di andare a controllare questa zona dopo che della gente che... Puoi farci raggiungere qua? State facendo un ottimo lavoro. Grazie signore. Grazie nuovo capitano delle guardie. Cosa facciamo? Andiamo in piazza? Sì, ci sta a me ammazzarmi nella pubblica piazza. No, non lo so. Facciamo venire qua, diciamo che abbiamo bisogno. Dovremmo attirarlo qua. E diciamo che dobbiamo fargli delle domande per la sicurezza della cittadina. Rimaniamo qui a sistemare le cose. Fate venire Isaac, dobbiamo assolutamente parlare con lui di un affare che conosce molto bene. Qui? Sì. Ma il capitano sarà impegnato e non vorrei andarlo a disturbare. È una cosa molto importante, una svolta importantissima nelle indagini di cui solo lui può sapere. Ah, okay, certo, capisco. E questo è un luogo... Questo è un ordine. E questo è un luogo molto, molto sicuro, appartato, adatto alle informazioni che dobbiamo dare. Sento le risate di Giulietto alla porta. La spada. E io ho deciso di fidarmi di te. Ti metto una mano sulla spalla. Va bene, signore. E mi raccomando, quel book. Ma non con Isaac, con gli altri, no? E si gira e fa per andare. Sospettoso, un po' perplesso. Ci sono le altre guardie. Le altre guardie stanno lì e perlustrano. Beh, cosa state aspettando? Andate alla ricerca del carro immediatamente. Ma in quella direzione. Un'altra. Non capisco. È il carro del bardo. Che cosa c'entra? Come cosa c'entra? È evidente. No, è lampante. Stupidi idiote. Quel carro era chiaramente un carro abusivo che non poteva stare qua. No, guarda, c'è il permesso proprio qui. Ah, trovato. Sì? Aveva il permesso per grandi felini. Ah, strano però che il permesso non sia col carro. Non esiste un permesso per grandi felini. Non ci sono grandi felini a Vallacchi. C'è una tigre con i denti a sciabola. Una tigre con i denti a sciabola e tutti si mettono a guardare. In quella direzione. No, no, ma io gli indico la direzione vera. Vabbè, però è come per dire, girati dietro di te una scimmia tre teste. No, non che è in quella direzione, era nel carro che è andato in quella direzione. Sì, dice la verità, Giulio. Una tigre dentro a sciabola nel carro del bardo mezzelfo. Pure mi avevano detto che il vino era finito là. Ma sì, ragazzi, non preoccupatevi. Ehi, lo sapete la novità? Dicono che sia tornato il vino. No, non è tornato, altrimenti lo sapremmo. Ragazzi, fidatevi. sì, chi ne sa di più di voi. Controlliamo tutti gli accessi, lo sapremo se il vino sarebbe entrato. Allora forse è abusivo, dovreste fare maggiori controlli. Alla locanda. Presto, vabbè, non c'è tempo da perdere. Comunque vi potrà confermare 20 di persuasion. questa bambina ce l'aveva con noi, no? No, già rimasta via. All'inizio l'avete mandata via. Pensavo fosse con noi. Già portiamo dietro una tigre che la vuole uccidere. Esatto. Cioè, che è stata addestrata ad uccidere i visitanti. Certo, intelligente. Niente, non dico niente. Mi dispiace. E vabbè, le guardie perlustrano un po' la zona, non trovano niente, anche perché no, devono andare al locale, è un ordine. Vabbè, fagli fare il suo lavoro, poverino. 20 di persuasion, fanno il mio lavoro. E no, fanno il lavoro che decidi tu. E poi torna, qualcuno va alla locanda, poi va alla locanda, va verso la direzione della locanda, poi se li seguite vedete dove vanno, e altri tornano ai loro posti di guardia. Bene, aspettiamo Isaac. Nel frattempo Oblinsky, direi che lo sediamo, cioè lo diciamo va a riposare. Lo sediamo, no, lui non ne ha bisogno, è già abbastanza esausto, cioè sconvolto di suo. Vai a riposare Oblinsky. Sì signore. Alla bambola che ci ha commissionato la bambola, e si rimette a lavorare sulla bambola. Quando la deve prendere? Adesso no, parleremo noi con Isaac. Gli spiegheremo cosa è successo qui. Tu vai a riposare. Sono l'ultima bambola. Dice che la consegna per domani mattina, ma che non ce la farà mai. No, beh, chiaro. Sì, quello che è successo. Parleremo noi. Ma lui non sentirà ragione. Aspettare domattina. Cosa? Isaac. No, abbiamo appena detto chiamare. Adesso lo ammazziamo. Ma era il piano? Mancano 11 punti ferita. Curati, scroll. Io ti. No, ok. vabbè, ti uso lo scroll. Lo curo io. No, lui c'è io. Faccio una sfera infuocata. Non ce l'ho con te. Sì, fai cura che dopo tu ti trasformi da orso e non curi. Curalo. Esatto. Sei calmo. Il nostro healer non cura. Hitler, vai io. Hitler. 5 meno 6 meno 1 meno 2 no, e 8 pf okay. E basta? Vuoi un'altra cura? Sì. No vabbè, ma ho solo 3 in meno adesso. Cazzo vuoi? Dai. In totale 41. Ah, avevi, ok, 11 in meno, va bene. 11 in meno. È questa tragedia. Sì, esatto, è stata una tragedia. No, tu curalo assolutamente. Beh, quello scroll. Sì. Scroll. Torna il tizio che hai mandato a chiamare Isaac. Non gli ho trasferito il mio persuasion? Signore, ho fatto come diceva lei, sono andato a cercare il capitano. E mi ha tagliato un braccio. Non l'ho trovato da nessuna parte. Come non l'ha trovato nessuno? Non era più dove ci aveva dato gli ordini. E dove può essere andato? Non lo so, di solito immagino possa essere tornato nella sua stanza, nella casa del borgomastro. Qui domattina, mattiamolo. Sì, aspettiamolo, mattiamolo, domattina passato. C'è la cosa della rivoluzione stanotte? No. Ma no, è arrivato Macbeth. No, aspettiamo un attimo. Aspettiamo che lì venga. Potrebbe essere stanotte. Se qualcuno fa qualcosa, tipo se io adesso andassi in giro a urlare cose, potrebbe capitare stanotte, ma se io sono buono, no. Molto male, sono molto deluso. Vabbè, vai a bere con gli altri. Grazie signore. Te lo sei meritato. Cosa? Ho detto che era deluso, che era deluso. Va bene. Cosa fate? Niente. Direi di riposarci lì. Sì, aspettiamo. Aspettiamo lì e intendiamo gli all'agguatone. State tutta la notte nel giocare. Tutta la notte. Nella tutta la notte. Ci riposiamo lì, tanto lo spazio c'è. Cosa andiamo? Dal coso del barone, diamo fuoco al barone. Ah, vedi? Beh, sarebbe il mio piano A, ma ok. Vabbè, intanto fate un riposo breve, se avete voglia di farlo. Se vi dà qualche. Un riposo breve. Sì, uso un riposo lungo a questo punto. Intanto fatene uno breve. Sì. Perché dopo un'ora e arriva Koglionovic. Io sono già lì che dico. Ho perso la bambina. No, la bambina è lì con sé ed è tutta intabarrata in un burka. Cambiato religione. Esatto. Beh, oddio. Non sapete che religione sono vista. Anch'io. Beh, però prima non l'avevi burkata. Però l'avevate camuffata per nascondere i suoi lineamenti, vi ricordo. Sì. Salve, salve. Essere vivente. Ed è tutto agitato e vi dice la situazione. Koglionovic, non sono mai felice di vederti, lo sai questo. La situazione sta precipitando. Ne sei consapevole? Lo so, ma non so a chi altro rivolgermi. Cosa è successo? Izek è entrato nella locanda e ha visto Irina e ha ordinato alle guardie di arrestarla. E di portarla nella casa del borgomastro. Fantastico. E ho dovuto nascondere la povera Isabella e Arabella. Quando si fa Isabella? Che se la vedono le guardie, non so che cosa gli può succedere. Per una volta in vita tua hai fatto qualcosa di intelligente. Grazie, e non so che cosa fare, dovremmo portare al sicuro la bambina e poi cercare un modo per ritrovare mia sorella. Vai alla chiesa. No, aspetta, non è un posto sicuro. Sì. Non è più un posto sicuro. Okay. Non lo sappiamo. Che sarà? No, io lo so invece. Sarà travestita. Non cambia un cazzo. È vero, vai alla chiesa. Vai alla chiesa e sei lì con la bambina. La bambina non può più stare in città. Ormai le guardie pattugliano ovunque per cercare queste benedette progenie. Se la trovano, è finita per lei. Ti buttiamola nel lago. Quando, ho capito, ma Arabella, quanto è distante il tuo accampamento da qua? No, io non sono mai stata qui in città, però dalla strada ci si vuole neanche una mezz'oretta. Ah, beh, cazzo, è vicinissimo. Qua. Tanto ci metti a fare. Cioè, abbiamo una missione, ne facciamo 26 prima di fare quella missione. Cioè, è assurda sta cosa. Ma potete ignorare tutte le altre cose, nessuno vi obbliga a farlo. Ho capito, Isaac ha preso Isabella, l'avrà portata a casa del borgomastro e no, vabbè, ha preso Irina. Scusate, Irina. Anche perché la bambola. Capito? Cioè adesso noi riportiamo la bambina, cosa abbiamo risolto? Abbiamo risolto un cazzo. Abbiamo tutto cambiato. Che poi Koglionovic non ci rompe il cazzo. No, allora, Koglionovic porti la bambina fuori dal no, perché i soldi del padre li vogliamo noi, non Koglionovic. Così, la bambina è al sicuro. Koglionovic fuori dai Koglionovic e noi possiamo fare. Tu ti fidi a far uscire Koglionovic da solo con la bambina? Rega, ma se è mezz'ora andiamo a abbattiamo la per cosa, mezz'oretta la prigione dove c'è Irina, così anche Irina ce la togliamo dai Koglionovic e poi. No, io direi aspettiamo la mattina, cioè facciamo intanto accompagnare la bambina, tentiamo di vedere se la mattina Izek arriva comunque allora, a prendere la bambola. Idea. Se arriva lo ammazziamo, idea. Se non arriva andiamo a cercarlo. Idea. Esatto. Noi ora abbiamo bisogno di forza. Una volta sono d'accordo con Giulio. Portiamo Arabella dai Vistani. Facciamo un esercito di Vestani e conquistiamo la città, ci sto. No, ci alleiamo con i Vistani e invadiamo e portiamo i Vistani in città. Ok. Va bene, vi incamminate quindi no, verso. No? Cioè, ormai ho detto ok. È una cosa bablateale che la vecchia leggera ci ha detto di non fare. Che cosa? Ah, tu dici hai paura che si faccia un grande spargimento di sangue. Boh, sì, un esercito di Vistani che per città. Ma quanto vuoi che siano in quell'accampamento? Scusa, è un accampamento a 30 minuti dalla città che è ancora in piedi nonostante la gente li odi i Vistani. Quanto vuoi che di quanti Vistani ci saranno mai? Siamo milioni il capo rom mare noi non è il campo rom andare dal conte strada quello che vedete quando arrivate una cosa del genere. Dai Rabella, ti portiamo a casa finalmente dopo 3 giorni. Vedete questa sorridente collina che in mezzo alla foresta. Qui siamo usciti tranquillamente. Cazzo, avete sentito, ho detto è vero. No, beh, ti hanno anche salutato. Tornate presto, signore. E non vi hanno neanche perquisito. Arrivederci. Ciao bambina. Ciao bambina intabarrata. Esatto. Sulla cima della collina vedete il campo nomadi. Queste sono delle carrozze simili a quelle che avevate già visto. E al centro c'è questa tenda più grande. Alla base della collina invece ci sono queste case che la circondano, di ovviamente non fattura, insomma, non appartenente a un popolo nomade. Perché era bella, sono quelle case sotto al campo. Oh, quelli sono gli spilungoni. Ok, traduci. Ah, scusa, chiamiamo così tra di noi. Dovete sapere che abitano, condividiamo questa collina con degli elfi del tramonto. Ok. Hanno una storia molto triste, mi ha detto mia mamma. Li prende sempre come esempio quando uno dei miei fratelli si comporta male. Io non mi comporto mai male, no. E gli dice di fare il bravo o finirai come gli spilungoni. E hanno questa pelle scura e anche i capelli neri, e la descrizione è quella di, se vi ricordate, il servitore di Strad che vi ha fatto il processo. Radin. Una faccia di cazzo. Era anche lui un un elfo del tramonto. Se avessi anche 2 punti di costituzione, sono sempre il massimo. No, ho solo punti di costituzione, quindi non sei avendo. Ah, sì, sono già massimo. Sono sempre molto tristi e non ci sono donne tra di loro, sono tutti maschi. Troveremo. Sembra che abbiano avuto tempo fa un brutto scontro con voi sapete chi, e da allora vivono sottomessi e di fatto stanno qui perché in questo modo noi diciamo che infornite le donne li teniamo d'occhio, se vai sono scambi loro essendo valenti guerrieri ci proteggono dalle persone che non ci vanno, a cui noi non andiamo a genio, e noi di contro con la nostra presenza li teniamo d'occhio, no? Assicuriamo che non cerchino di ribellarsi più al padrone. Al padrone. Sì, mia mamma lo chiama così. Voi come lo chiamate? Strada. Ah, sì. Strada è il padrone? Ma è il padrone, sì. Di tutto il padrone. Sì. Il bar che sarà mi delude. Fermo un attimo, Arabella. Il problema è che a un certo punto la gente facendo queste cose si mette in un bel guaio. Guaio, guaio, guaio. Mi dispiace, non volevo. Ma tranquilla, noi adesso andiamo a trovare la tua famiglia. Ma finalmente. Caso, cioè. Quindi per loro il padrone beh, buona, siamo italiani, le alleanze le ribaltiamo quando ci va, ma come ci svegliamo la mattina. Una cosa un po' così, a cazzo di cane. È genetica, Vez. No, aspettiamo di vedere chi vince, però, di solito. Andiamo, va. Arrivate. Va bene, seguitemi. Arrivate al livello delle case e vedete che fuori da queste case ci sono appunto delle guardie di questi elfi del tramonto che appunto sono lì che fanno la guardia, hanno delle lanterne. È pomeriggio, tra molto verrà il tramonto. Salute amici sfortunati. Salute anche a lei, amico sfortunato. E ritorna triste come era anche prima. E hanno questi coperti da questi mantelli scuri ed è tutto molto triste. Se non state vi dilungate molto, arrivate a parlare con loro, arrivate alla tende ai carri dei vistani. No, li buttiamo a pedate dentro la bambina e va, sei libera, nuota, vola. Ci sono intorno a questo accampamento un sacco di quanto è grande l'accampamento? Allora, guarda, l'avevo pure stampato. Beh, ogni quadretto sono 15 km. Cioè, queste sono le case. Il quadretto sono 10 piedi e quelle sono i decine di carri. Dice, cioè, alla fine ci stanno pochissime persone in realtà. Nelle case o nei carri, dici? Nei carri. Allora non sono la stessa cosa le case e i carri. No, le case sono degli elfi e i carri sono degli stan. Cioè, ci staranno una decina di vistani. Conta i carri. Beh, oddio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono 12 carri, in ogni carro mi sembra ce ne stiano 6. Cosa sono delle matriosche? Quando girano, poi sono piccoli, nella tenda ovviamente alloggiano quando devono dormire, dico, mentre si spostano. E al centro di questo accampamento appunto vedete questi due uomini molto, insomma, meglio vestiti degli altri, con anche un'armatura, insomma, un giacco di pelle, e c'è uno dei due più grosso dell'altro, e ha con sé una frusta, e praticamente sta inveendo contro questo sgherro, questo vistana che intuite essere un sottoposto, ed è lì che quell'altro lo sta trattenendo per evitare che lo massacri di botte, ed è lì che gli urla contro: avevi un solo compito, dovevi guardare quella maledetta mocciosa, e adesso se le succederà qualcosa, beh, prega che io posso infliggerti solo la metà delle pene che ho in mente per te. Quella là mi ricorda Coglione, dice. Bisogna stare attenti a ciò che si chiede agli dèi. Si girano verso di te: e tu chi cazzo sei? E spaccano bottiglie. Spacca bottiglie. Io mazzo, va via. Tu non questo mio tempo. I due capoccia, quello grosso, immaginate, quello con la faccia cattiva, e poi c'è un altro, si somigliano, potete pensare siano fratelli, sono fratelli, e invece ha lo sguardo più furbo e più infido. Luvash è scontento, è infelice perché la sua... Ah, solo 7 anni era bella. Ah, dov'è che scritto? 7 years old. Ah, diamogli la bambina. Quindi no, beh, immagino che siamo qui per riportare a casa chi si era perso. Lui è la figlio al prodigio. Sconvolto, gli cadono la bottiglia e la frusta di fondo. E i soldi che ha appena derubato. Appunto, anche per via dell'alcol che scorre potente nel suo lezzo, nel suo fiato, irruppe in pianto, avvicinandosi con gli occhi pieni di lacrime di gioia. Era bella, dove eri finita? No, era bella. Sei pazzo? Sì, non sono come pazzo inutilmente crudele. Sei malvagio. Crudele con uno scopo. Sì, ma sono malvagio con un perché, cioè non è che ammazzo i bambini e stupro le vergini. Beh, però cosa cambia da bambino a un cavallo? Perché già massimo stupro i bambini e cosa? 7 anni non sarà mai vergine. Vedete il tizio che stava venendo malmenato, che intanto in effetti ha approfittato per scapparsene. E mentre Luvash appunto abbraccia la bambina, suo fratello si presenta e vi dice: sono Harrigal, E vi guarda. Avete una faccia familiare. Comunque molto piacere di conoscervi. Siamo già visti forse al campo colorato. Non mi ricordo. No, quelli là erano nemici strani. Però è un piacere rivedervi. Avete fatto veramente una cosa da eroe. Esatto, ha tolto le parole di bocca. E forse mi sta neanche. Pare che da queste parti voi non siate molto ben visti. Oh, no, non siamo ben visti da nessuna parte, purtroppo. Ma che ci vuoi fare? La piccolina era stata rapita da un pescatore che voleva sacrificarla alla dea del lago per pescare. Tu mi prendi per il culo. No. Sì, siamo venuti fin qua esattamente per questo. Il vostro amico è un senso dell'umorismo dirompente. No, non l'ho perso. No, se ne accorgerà presto. Guarda la bambina e dice: chieda alla bambina se non ci crede. Ma è davvero è successo questo? E la bambina racconta: sì, stavo giocando nel bosco quando ho visto questo energumeno che mi ha preso, mi ha infilato in un sacco e mi ha messo in spalla, e balbettando tra sé e sé qualcosa rispetto al pesce e al vino, mi ha portato il lago. Gesù. E non vedevo niente, era tutto buio. A un certo punto ho sentito il l'acqua del lago gelida che cominciava a sommergermi, e poi per fortuna è arrivato uno di questi benefattori che mi ha salvato. E si alza Luvash, l'altro, e vi abbraccia e vi dite: controlliamo i portafogli. Io non so come ringraziare voi. Io sappiamo. È il giorno più bello della mia vita. Voi da ora in poi sarete nostri amici e nessuno di noi torcerà mai un cappello a voi. Aspetti che l'aggiungo alla lista degli alleati. O persone da tradire quando sarà il momento. Io voglio dare voi grande ricompensa e vi prego seguitemi, e vi porta a questo vagone tutto rinforzato, pieno di lucchetti, un portavalore. Noi ti teniamo tigre. No, qua non c'è tigre. Ti rende strada a uccidere. Ma che senso? A uccidere gli stai? Ma cosa? Perché? Se gli stai? Dai, infatti che c'è il problema. Stavo aspettando una vittima da sacrificare. Carbella. Oggi sono più felice della mia vita. Anche di tigre. Vabbè. Questi due grossi lucchetti che chiudono l'ingresso di questo vagone. Lui prende queste grosse chiavi e li apre. E questo è il vagone del tesoro dei Vistani. Dentro ci sono tutte le ricchezze che siamo riusciti ad accumulare in tanti anni di mercanteggiamenti. Ci dovrebbero bastare. Dentro ci sono i 6 grandi tesori e io vorrei donarvene uno. Sono tutti molto valorosi. Prego, lasciate che ve li espongo. Ah, possiamo scegliere. La mia generosità è così grande perché voi mi avete riportato il mio tesoro più prezioso. Mi dispiacerà ucciderti. Noi non l'abbiamo fatta neanche scegliere. Poteva scegliere uno delle altre bambine che abbiamo ucciso. Cosa? A saperlo. Dentro questo vagone ci sono alcune casse, alcuni forzieri. Voglio la scatola misteriosa. La scatola misteriosa. La scatola misteriosa, adesso te la dico. Allora, c'è una scatola di onice, una porta gioie con filigrana d'oro. Solo la scatola vale 250 monete d'oro e contiene alcuni gioielli diciamo di valore basso, circa 50 monete d'oro l'uno, e una pozione senza l'etichetta. Questa è una misteriosa. Una pozione verde. E c'è un bellissimo trono di legno, tutto intagliato e con come delle pietre decorative. Esatto. Sì, chissà che credo che ci daremo a bambina. 700 monete d'oro. Di quanto? 700. 700. Poi c'è questo arazzo di 10 piedi quadrati. Di una mezza armatura. E con che raffigura un unicorno. Numero 3. Anche questo vale intorno alle 700 monete d'oro. E c'è questo piccolo forziere di legno che contiene 12 pozioni. Su queste pozioni ci sono queste etichette che vengono chiamate pozioni del viaggio. E un'altra cassa di legno che contiene 1200 electrum. Davvero. E una cassa misteriosa, una cassa di ferro, che anche questa sta chiusa. E questi sono i tesori dei Vistani. Cosa c'è una cassa di ferro? Oh, la cassa di ferro. Vedete, quello è il... Quello è il premio per Gonzi. No, Gonzi nella nostra tradizione, persona di grande rispetto. Quello è il tesoro più prezioso di tutti. Per comunità. Contiene perché prende tutto gold, prende qualunque cosa gold. Contiene 800 monete d'oro. È il tesoro più importante dei tesori dei Vistani. Oppure zero monete d'oro. Ha un piccolo allora problema. Meno importante che un mimic. Io vorrei veramente dare voi questo tesoro, ma il c'è no. 900 monete d'oro. Dovete sapere che il popolo di Stani è molto superstizioso e si dice ci sia maledizione su questo tesoro, che solo le più abili menti potranno sciogliere e impossessarsi del contenuto, del prezioso contenuto. Si dice che anni e anni fa potente mago maledì questo tesoro. Le monete contenute sono preziosissime. Hanno una faccia di oro giallo e una faccia di oro bianco. E mago disse: chi vorrà utilizzare questo tesoro dovrà prima superare la prova di saggezza. Sono qua, questo 10 16, sono pronto. Altrimenti la maledizione colpirà lui e chiunque poserà lo sguardo su queste monete senza prima aver risolto l'indovinello. È solo mezzo turno, lo dissangueremo. Sgozziamo cara bella. Monete sono tutte disposte con faccia gialla verso in su, ma ci sono 20 monete tra queste con la faccia argento, faccia oro bianco verso in su. Senza vedere questa moneta dovete riuscire a dividere monete in due gruppi in modo che il numero di monete con faccia bianca in su sia uguale in tutti i due gruppi. Prendiamo il trono di legno. Oh, sto dicendo in dalla vista. Volete, potete prendere altro trono, però se voi nessuno di noi è così intelligente per risolvere l'enigma del mago. No, aspetta. Cioè, senza vedere. Stacco. Cioè, sono tutte quante messe con la faccia d'oro in su. Esatto, tranne tre. Tranne alcune, 20. Tranne che 20. Però sono schiacciate dalle altre. Sì, non sapete in quale. A me preparare normalmente in sono tutte schiacciate così e dobbiamo riuscire a girarle tutte, però ovviamente non sappiamo, cioè sono schiacciate sotto quindi non le vediamo. Voi cioè, dovete fare questa cosa bendati. Non si può vedere con occhi le monete senza aver risolto la maledizione, altrimenti maledizione le colpisce. E tu devi riuscire a dividere monete in due gruppi. Sì. In modo che il numero di monete con faccia oro bianco verso l'alto sia uguale. In due gruppi uguali, una con rivolta su e una rivolta giù. No, in due gruppi in cui il numero di monete bianche All'interno dello stesso gruppo. All'interno del gruppo sei uguale nel primo gruppo e nel secondo gruppo. Più o meno quindi stiamo. Bisogna beccarle 20 e fare 10-10 sostanzialmente. No, non sai quante monete ci sono dentro. Sono 800 20. Monete. Ah, 20 di queste 20 sono una faccia in su, ma non sapete quale, perché non potete vedere. Okay. Monete cioè, si possono. Voi potete toccare monete. Cioè, l'obiettivo è fare due gruppi in cui ci siano 10 da una parte e 10 dall'altra di questo oro bianco. Qui ci sia il numero uguale di monete. No, devono essere uguali il numero faccia in su e faccia in giù. Ah, ok. Si vede che tu essere intelligente. Io confidare in voi. Adesso, quanti gruppi? Due gruppi. Separare questo mucchio in due gruppi in cui il numero di monete con la faccia bianca verso l'alto. Ma noi possiamo girarle. Voi potete toccare, non potete vedere, altrimenti maledizione. No, possiamo girare le monete. Che ma dovete stare. Ho capito che facce c'hanno. Cioè, avranno le facce diverse. No, tutte le monete hanno facce. Cioè, c'hanno due teste. Cioè, c'è testa e croce. Che cazzo le fate queste monete? Oh! le monete di Barovia hanno la cioè, faccia di strada. Potresti girarle e dividerle, però non sai quali sono quelle, diciamo, bianche. Che ti rovinano il gioco. Teoria. Cioè, devi trovare un modo per scoprire quali sono quelle 20 lì. Oppure? Per capire qual è una faccia e qual è l'altra, più che altro. Perché non ti basta sapere quelle 20 lì. Perché per fare due gruppi in cui sono entrambi, tu alcune devi girare. Per forza. Quindi? Aspetta. Volete che prenda delle monete? Ne ho poche, non ho molti spicci. Ma è il discorso che noi non possiamo guardare, no? Esatto. Però le potete toccare. Perché le dovete dividere in due gruppi, giustamente. Che cosa le differenze a parte, cioè il colore? Basta. Niente, sai, però sapete di per certo che di dentro ce ne sono 20 a faccia in su. A faccia in su. Possiamo provare volendo usando la luce. Su 800, giusto? Sì. Quindi dobbiamo avere due gruppi da 400. No, hai detto due gruppi, non due gruppi uguali. Due gruppi dove siano lo stesso protettivo. Cioè, o... magari queste luci, cioè magari queste monete qua, la faccia d'oro e la faccia bianca riflettono diversamente la luce e anche a occhi chiusi se tu ci spari una luce sopra. No, penso che sia un problema di logica, non sì, di... è solo logica. E infatti vi stanni, non ci possono arrivare. Quanto pare neanche tu. Avete parenti vi stanni. Aspetta. No, dovrei dividerle in un certo modo. Oh. Sono quelle peccate che c'erano anche nei test. Hai 800 monete. Allora aspetta, i 20 sono due gruppi in modo che siano, cioè possono essere, devono essere i due gruppi devono contenere tutte le monete oppure no? Sì, dovete dividere il gruppo di 800 monete in due. Ok. E dovete fare in modo che i due all'interno gruppi del gruppo ci no. sia lo stesso numero di monete bianche e dell'altro. A dell'altro. Sì, nei due gruppi ci sono. E noi le possiamo girare. E voi le potete girare. Stesso numero di monete bianche dell'altro. Sì, però non puoi guardare niente. Esatto. Ma è che se le giri tutte non cambia niente. Esatto. Cosa vai solo al tatto? Sì. Ovviamente al tatto le due facce sono uguali. Secondo me possiamo pensarci fino alla prossima puntata. Dormiamoci su. No, sì. Aspetta. Se non puoi, se non puoi guardarle, puoi solo andare o di tatto. Cioè, adesso che la cosa che le puoi girare. Esatto. Sì, però se non provo per guardarle. Quindi c'è come puoi. Se finisce o fai modo che quel numero delle 20 sia rilevante. Oppure sapere quali siano quelle 20. Tutto sappiamo che semplicemente ci sono 20 monete. Girate. Girate. Guardo su internet. Gioco delle monete. Probabilmente lo trovi abbastanza. No, male. No, non guardare, Arci. Scherzo, non lo guardo. Sono 800 monete, 20 sono girate. Dobbiamo fare due gruppi in cui all'interno di ogni gruppo il numero di monete. I due gruppi sia uguale. Di monete bianche. Di facce. Ah, le monete bianche devono essere uguali nei due gruppi. No, le monete totali. Può essere un gruppo da 10 e l'altro da 790. Ah, ok. Uno delle monete bianche deve essere uguali e basta. Quindi per forza devono essere 10-10. Sostanzialmente. Prima lui però diceva di no. O girato. Mossi due giri. Mia intelligenza 10. Beh. Io ho messo 11. Ah, ci fanno più. Tu vai quanto hai intelligenza? 12, scusa, non dire 12. Allora, vabbè, è un gioco da ragazzi. Vabbè, proviamo con delle monete. Vabbè, intanto però noi possiamo prenderlo e basta. Se tu non puoi sapere, diciamo, al tatto se uno è un tipo dell'altro. Altrimenti gli stani l'avrebbero già fatto e se sarebbero già spese in alcol e vino. Ora potete dirgli, ma sì, sono solo superstizioni a prendere. Secondo me è così comunque. Ma sono solo superstizioni. Eh? Ma sono solo superstizioni. Possiamo veramente interrompere in realtà. Sì. Fare in modo che siano uguali nei due gruppi. Vabbè, se tu che lavori in banca non sai ste cose. domani vai a contare un po' di soldi. Tu riconosci le monete senza quella che vendono. No, è che non puoi, cioè, nel senso, non puoi sapere quali sono quelle girate. Per cui devi fare un modo per cui lo siano comunque. Cioè, capito bene, una roba del genere. Quindi. Tu al tatto non puoi sapere. Okay. Secondo me non devi usare i tuoi sensi, ma devi fare tipo delle cose numeriche, dei gruppetti. È pura logica. Tu devi dividerli in due gruppi in modo che il numero di monete faccia in su, con la faccia bianca in su, sia uguale. E tu però puoi toccare le monete, quindi le puoi anche girare. Sì, ma tanto cambia un cazzo, no? Cosa vuol dire cambia un cazzo? Se giri una, cambia il numero di monete con la faccia bianca in su. Sì, ma nel senso tu non sai qual è, com'è quando la prendi. Esatto. Quindi? Ne prendi tre da una parte, tre dall'altra, tre da una parte, tre dall'altra, tre da una parte, tre dall'altra, e ogni volta che scegli un numero 2 o 3 ne giri una. A cazzo. E speri che la maledizione finisca. Esatto, sì, il problema è quello. No? C'è un modo per farlo a colpo sicuro. Io no. Non ti sembra sicuro? No, però prova con delle monete. Vabbè, facciamo con dei dadi, dai. Siamo qui tutti i dadi a sé. Tu hai tot dadi, prendi, fai una prova con i dadi. Facciamo una prova. Fai tot dadi che hanno il 6 in alto e altri che hanno l'1. Quanti dadi arriviamo? Dai, metti 4 col 6 e 3 con l'1. Abbiamo 800 monete, guarda. Facciamone almeno 8 dadi. Fai comunque 5, 3. Anzi, facciamo 16 dadi. Sì, vabbè, dai, Giulio. Tu vuoi dei dadi? 3, 3, 3. 3, 12. Sul barter o questo, Lex? Ah no, 16 dadi ho detto. Okay. Portarlo per da giocare D&D. Quindi ce ne sono 2 con l'1 e gli altri hanno 6. Sì. Allora, 2 con l'1. Se vuoi. Mi di 30 qua? No. Un vi spastici che giocano. No, non sto capendo, c'è qualcosa che non capisco. 6. Se io gioco a D&D un po' per distrarmi dalla vita, dalla tristezza della vita quotidiana. Dalle difficoltà, delle difficoltà della monete. Quando ti capita? 20 sono girate. Nella vita quotidiana. Ci sono 380 normali. Dico che hai 430 calorie su 100 grammi. E tu dovevi mangiare. Non ci avevo pensato. Cosa c'è? Stai già facendo tu, Giulio? Tutti del 6 li hai messi? E 2 da 1. Noi abbiamo la maggior parte che hanno il 6 in alto e 2 che non hanno. Okay. Come fai a dividere questi dadi in due gruppi in modo che ci sia il pari numero di 1? Di uno. Non vedendo. Fai 3 da una parte e ne giri 1. E così hai 6 e 1. Poi mentre da una parte di là e ne giri 1. Tra la parte di qua. È comodo prendere il tempo. Molto, molto poco casualmente. Lascio perdere, lascio. Vabbè. Però se è simile. Vero. Continuate a pensare a cosa. Cioè, secondo me ho scazzato i due numeri. Nel senso che. Cioè, tu potresti anche prendere così, vedi. E girarne uno. Oppure tu che cosa sai? Che in quella mucchia ce ne sono 20 in totale, no? Sì. Ah sì, nelle monete ci sono 20 in totale. Sì. Sotto 100 e sono double fuss, quindi da una parte c'è il bianco e dall'altra c'è l'oro. E posso raggrupparli in gruppi da due, girare tutti una. Ma guarda se funziona. È peggio se non è così, come dici tu. Cioè, come casuale, alla fine quello. Esatto, invece c'è un modo per essere sicuro. Ma i due gruppi devono contenere il totale delle monete o no? Voi dovete dividere il totale in due gruppi, ma. Non due gruppi uguali. 300 e 500, esatto. Però devono essere il totale, deve essere comunque 800. Esatto, devono essere tutte le monete. E lì sono 10 bianche da una parte e 10 bianche dall'altra. Il numero di bianche da una parte e dall'altra deve essere uguale. Mm-hmm. Il problema è che girarne. Ti ha detto che devono essere 10 e 10. Prendi 4 e ne giri 2. Fallo. Catta, non mi dire se devi so dire sì o no. Cosa cioè, vuoi fare? Non è che devo capire. Non voglio instradarti. Non è, se dico no, magari perdi la strada. Cosa devi fare, Arci? Prendere 4 e girarne 2, che è uguale a prenderne 2 e girarne 1. Solo che è raddoppiato. Sì. Esatto. E se invece di raddoppiare... dimezzassi, giriamo 1 e giriamo 1. Che cosa succede? Se giro 1. Ok. Non 1. Cioè, se ne prendi 4 e ne giri 4, tu dici tipo quante monete o dadi sai che ci sono? È 800 o no, 16 no, bianchi 20. Ok, e ne prendi 20 e ne giri a metà, no, e ne giri? Ne giri tutte e le giri tutte. Perché, scusami? Prova a farlo qui. Prendine due e li giri. Scusa. Cioè, senza guardare. Prendi due e li giro. E vabbè, quelli lì diventeranno degli uno. Mettili da parte e poi verranno girati. Ok. Ok. Questi due diventano due e uno. E li metti da parte, no? Sì. Questi due gruppi quanti uno hanno? Due. Quindi c'è lo stesso numero di bianchi da una parte e dall'altra. Sì, ma mettiamo caso che no, lui no, prova... no, metti caso che becca l'uno. Se, se becco 2 e 1 e li gira è 0. Se becco 1 e 1. 1 e 1 è sempre 1 e 1. È sempre 1 e 1. Okay. Quindi se prendo 20 girare 20. Esatto. E in ogni modo, anche se becchi lì in mezzo delle bianche diventeranno gialle e quindi avrai due gruppi con lo stesso numero. Cioè fai 20 in 20? No, ne prendi 20, ne e, prendi 20 e ne giri. Prendi 20 e ne giri. Perché se becchi tutte le 20 bianche, facciamo finta, diventano tutte gialle, quindi il numero è uguale, 0 e 0. Metti caso che le becchi tutte gialle, ne giri 20, vuol dire che le 20 bianche sono rimaste di là, e quindi quelle 20 che hai girato diventano tutte bianche. 20 e 20. E viceversa nel caso delle becchi sono tutte 5, le combinazioni alla fine girandole bene, bravo. Scusami, tu le prendi 20 a caso, sì, e le giri e quello è il tuo è uno tu dei due gruppi. Prendi che ne hai 17 gialle e 3 bianche in quel gruppo, ne giri però dopo hai 17 bianche e 3 gialle come quelle che nell'altro gruppo, quello più grande. Ho capito. Tu devi prendere il numero di quelle che ti vuoi avere uguali. Sì, ho capito. Sì, sì, è vero. Qualunque numero casuale che tu prendi a 20 lo inverti e quindi arrivi allo stesso rapporto. Va bene, Arregal vi dice, bravo, avete risolto il indovinello, grazie. Si prende le monete, scherzo. Ero troppo stanco. Ma sì, tutti mi sembra molto semplice invece. Sì, dov'è? Cioè, una volta che sai la soluzione dici che cazzata. Vabbè, una volta che uno sa la soluzione qualsiasi indovinello è una cazzata. E allora perché non ci sei arrivato prima? Beh, dai, siamo arrivati più o meno. Esatto. Alla fine, una volta che uno sa la soluzione. Bene. Diciamo che con la compagnia che chi più chi meno sta addormentando. Esatto, potete andare a dormire, sogni d'oro. Ma nulla ragazzi, non ho più l'età queste cose. D'oro bianco e... Va bene. Quindi ma, noi invece scegliamo quello di esatto, Electrum. Adesso potete quello prendere. Quello di Electrum, non è vero, non era più... 1200 Electrum, sono 600 d'oro. Ah, quasi. Quasi quello. E gli altri però invece sono merda, quindi. No, c'erano quelli che avevano sì. 700 d'oro. Sì, solo che devi prenderti il razzo, come si chiama? Il trono. Il trono e venderli, girare col trono. C'era quello delle boccette della velocità. Le boccette del viaggio, le volete quelle. E quello con l'unica fialetta. No, ci sono le boccette del viaggio, vi permettono di viaggiare attraverso la nebbia. E lui lascia arriva lì, no, quelle non funzionano tanto bene, Arregal. Dai. sì. Va bene, quindi abbiamo preso, avete risolto il indovinello e abbiamo preso queste, bravi. Bene. Ecco, finalmente un loot degno di questo nome che possiamo salutare i nostri telespettatori. Sì, più che altro bisogna capire cosa fare di sta gente. Di sta gente intendi? Non so, in questa puntata hanno detto che avrei dovuto uccidere tutti i familiari di Arabella e Kat ha detto di sì, quindi immagino che in futuro dovremmo uccidere di sì. Non lo so, io. Ok. Tu hai detto di sì, tu che hai decretato il loro fato. Ne approfitto per salutare, vado in bagno. Guarda che bagno. Cioè, siamo messi in queste condizioni. Va bene, salutiamo tutti. Buonanotte. Un saluto davvero. Al contestrato. E alle prossime puntate di Tycoons and Dragons, sperando di recuperare qualche effettivo e o qualche ora di sonno. Buonanotte. Ciao. Io? Normalmente tanto io.